io sogno. Allora, ho sentito il bippi. Ma lo puoi lasciare. Ah, lo senti anche tu. Ho capito. Va bene, va bene. Tanto, anche io stavo riposando un po'. L'ho acceso adesso. Ho sentito il bippi. E ti ho risposto più. Allora, è andato benissimo. Oh, è grande. Bella modulazione, bel segnale, bello todos, Marco lascia ancora, ancora bucato, vabbè, tu pistrilli a questo la dormo, ebbene sì, già siamo qua noi, ne ho sentito, sono uscito alle 2:03, mi stava riposando adesso, non mi ha acceso il cluster, adesso a vedere cosa c'è. Niente di che, niente di che, no, gappa gappa, ciù che ciù, tu niente mello, com'è? Allora, come va? Bene, bene, mica abbiamo sistemato Natalino, vai Natalino. Ehi, già ti sento bene, andiamo a vivere adesso. Il bip che fa ciù che ciù, cioè guarda a me il bip. Io pensavo a loro, no. Ciù che ciù. Sarà la base che non c'è la bobina, vuole dire, che mi sa che è quello. Dentro la base c'è una bobina da un aspirasolo della 1800. E c'è stato è quella. Comunque ho migliorato parecchio, no, capito? Da come prima, come si è adesso, come abbiamo messo l'antenna ieri, mi si è perfetta, a parte sto trovare, vabbè, quello si può anche eliminare con un accordatore di quelli piccolini da agganciare e il sensore te li porti a zero. Beh, un accordatore già si busca di quelli piccoli, già ce l'ho in giro già, solo che faccio solo l'accordatore, l'attacchi al paracchino e ti fa scendere il sensore a zero, basta. E provvisoriamente lo lasci così, poi quando avrei quando potrei salire sopra il tetto, fare i lavori come si deve, le stazionali non ci saranno più, tanto di cambiare antenna. Basta controllare col test, se nelle, sai, più, avanzando più o meno nei contatti del test, dovrebbe darti un conto fisico. Se non sono là, vuol dire che non c'è la bobina in quella basetta, sta tranquillo. E quindi sta funzionando solo lo stilo con la carica. Se la faceva tu, la devo farla anche adesso, perché come abbiamo pensato l'abbiamo pensata giusta, non è che pensavo sbagliata. Capito? A meno che non sia ribambito io, ma ti pare che l'hanno. Uno o due che ho pensato di quelle antenne. Anche tu, delle d'altronde. Sì, qualche cosa dove si trova, non è problema per quello. Basta spucciare da qualcuno che sappia qualche contattore così, di quegli piccolini. Se c'è, ti sei solo accordatore, poi lo smetto di accelerare. Dimmi, come si chiama quello? Come si chiama quella curatore del TG? Non stai dentro ma con PL, vabbè, comunque uno di quelli ci vuole, almeno per darti un riferimento, dai. Ah, non serve niente quel Rosma, tanto lì per me sì, ci avrai qualche punta di stazionaria, ma se c'erano stazionarie alte sarete uscito male, invece stai uscendo benissimo. Io ce l'ho di quei invece pochi piccolini. Il K112 della lancia. C'ha l'invece uscita antenna e passa, non c'è nient'altro. E cos'è l'accordatore? Sì, l'accordatore mi aveva dato quello di... dove avevo comprato il Gameboy. Mi aveva dato quello. E un paio di 3-4 switch di era. E poi te li dico di quell'accordatore famoso, quello che non riuscivo a capire come diavolo funziona. E c'è anche quello, che fa varie frequenze, no? Capito. Prova a inserire quello, a darle quello lì, a vedere se le stazionali scendono. Il lato quello è difficile, dove ti dico. Per il resto tutto a posto? Sì, per il resto sì. Sono andato tutti male all'avvocato, la studia là e me ne avevo sentito tutto indietro. Devo restituire loro? Sì, tutto loro devo restituire indietro. L'unica cosa è che adesso si appieno da stanza ci hanno trovato a piedi. E l'autore di palle che ogni volta devi metterci 20 euro di cosa di benzina per andare a tornare, che sono 80 km, so. No, Tisi, ho lavorato io, sono 45 andare e 45 a tornare. Sì, e poi sono da 5 sono al bivio, da 3 e più ce ne sono altri 4, capito, per finire il detto paese, quindi vabbè, come ci siamo. Sì, io per 80 km al giorno. 80 km sono, lo so, e io ci ho lavorato 10. Tutta quella zona l'ho fatta, capito? Quindi sono quasi una cinquantina di chilometri, sono dai. Fai 50 km a arrivare all'ospedale, quindi 50 andare, 50 tornare, 100 km. Io sono già uomo di viaggio, so, risulta proprio dopo zirita. Marco, non ho mai fatto la strada di ritiro, penso che sia più lunga comunque, piena di curve, forse è meglio lasciare il 21. Magari la rete è più vicino, passando dai tiri dal Gargheo. Gitto Finocchio. Gise, Antonella, Gise, dopo Giave, Tisi. 131, tutto dritto. Dopo Giave, un chilometro e mezzo e c'è il bivio per l'ingresso per Tisi. Gise, le curve, non curve. Punto 131, dritto. Come super il bivio di Giave, subito dopo c'è quello di Tisi. Sì, non hai capito a me, no? Siccome lì, ciao Marco, come hai sentito? Lì nel paese c'è anche la strada per andare a Ittiri, passando magari da Ittiri, magari più vicino, senza fare la 131, capito? No, lascia perdere, fare la strada che va a Romana, poi lascia perdere, passare al Birighito, quella è tutto curva, quella è bruttissima la strada, lascia perdere. Tu guarda, 20 minuti di macchina si attesi da Sassi, da qua lo abitiamo noi, capito? Scendi Scalaiciocca, 131, direzione a Cagliari, superi Giave e dopo Giave c'è 10, non c'è a sbagliare. L'altra è bruttissima quella strada, ma brutta però. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ebbè, dove deve andare? A Tisi, Pomponio, roba del genere. No, sono già andato ieri a Tisi, ieri mattina. Sono stato primo a fare l'antenna dello spero del mezzo per portare l'acqua a Giampiero, che andavo da sui Torino adesso, capito? E qua sono delle persone che tengono 2-3 giorni e poi ce la mandano. Trasferito lì, quindi non lo potete gestire a casa, no? Come ce lo porto a casa adesso? Ho fatto la domanda per il coso stamattina, per quello che ci vuole, letto, eccetera, eccetera, carrozzina, capito? Avevo fatto la domanda a San Camillo, da lì poi ci daranno tutto e allora possiamo anche portarlo qua a casa. Da quello dove ce lo metto, dove ce lo fa, usiamo lo trovo in terra. Ah, insomma, ci volevano delle attrezzature speciali che appunto dovreste comprare, sarebbe una follia, dai, come prezzo. E già, riprendi Claudio, dai, buona sera a tutti. Ma per forza ci vuole attrezzatura giusta, anche io con la mia socia, se no ti fa le piaghe nella schiena, ci vuole letto apposta, quello che si solleva, che fa, capito? Quindi trova San Camillo e fa la richiesta, San Camillo ti dà tutto, quindi c'è da attrezzare tutto prima, sennò, ma poi è molto pesante, quanto pesa? Ah, pesa una tira di chili, pesa, forse anche di meno, già dimagrito parecchio già. Capisci che? Perché l'idea come si è ridotto, forse è l'ultimo che avevo visto con te allo spin. Sì, era grasso ma stava bene. Lo so. Se si è rovinato da solo, in teoria. Cazzo, sempre a casa, mi vendi e voi? Cos'è vi fa? Non lo so se vi fa. Non siamo a casa dove mai giù. E appunto sul collo. Allora Marco, ieri a passeggio sei uscito. Tutto il giorno fuori ero, tutta la sera fuori ero. Sono andato a Platamona, caspita, non c'era vento, c'era una leggera brezza, stava benissimo, benissimo, almeno con la giacca, un bel gente, la gelateria presa a salto, il mare era olio, una tavola era, guarda, Bello, bello, il sole era già mezzo coperto dalle nuvole, ma stava bene anche così, lo sai, al sole stava anche meglio. Poi da lì sono andato a fare, da Osciano a fare una spesa, poi ero passato Natalino, gli avevo dato una cosa, la scatola dell'apparecchio con le, vabbè, le istruzioni in inglese, quindi è come non averne. La garanzia, scontrino, eccetera. E così abbiamo fatto, completato, dai. Bene, bene. E tu cosa hai fatto a casa sempre, Antonè? Ah, tu ieri. Da Natalina sono passato, ho avuto lui a prendere, sono andato da soli, mi sono andato a qui all'esterno, infatti adesso lo sento bene. Prima non sentivo niente, lui lo chiamavo, lui sentiva, io sentivo lui, sentivo 5, 6, non di più. Invece arriva, adesso arriva molto più forte e mi sente perfetto almeno. Poi mi ha detto, dice, mi deve passare Marco, ho detto, vabbè, io ho detto, mi stavo andando un attimo, ho detto a cercare un amico, gli ho detto qua, c'è tutto, dico pure, lì ci vediamo dopo con Marco. Siamo il PM era questo. E invece mi sono stato tenuto di là e alle 8 poi sono stato da Nicco, ho bevuto una cosa e poi è direttamente a casa. Lei ha migliorato tantissimo, quasi 9 più 20, perché 9 15 lo passa, 9 15, quello è 9 più 20, caspita. Ma sai quante volte gliel'ha dovuto dire Claudio? Metti l'antenna fuori, trovati una piastra, attaccala a qualcosa, basta che sia fuori. E poi insomma, ho capito che è stata eliminata la base, è fatto un foro sul palo, quindi fatta la massa effettiva. È buono, dai, è buono. Per adesso abbiamo risolto un po', dai. Io già sono andato bene adesso. Ci vuole mettere una cosa di una piccolina cacciata e fatta, non si dice, ma una volta avevo messo la buca anche io lì, la stessa cosa, usciva bene. Infatti me lo ricordo, poi non si ricorda neanche dove l'ha messa, solo avevo messo magari la boomerang, mi aveva piato un paletto, mi aveva fatto una specie di tipo di scarpo, tipo L, e mi aveva messo la base della boomerang con un radiale, ci è andato benissimo, oppure una base di Grand Prix con uno stilo radiale, non sarebbe successo niente, anzi, ci è andata anche meglio, solo il problema lì magari qualcuno tocca il radiale e viene buttato tutto quanto in terra, perché io sei il numero 265, quindi. Eia. Bene, e a te quanto arriva Natalino adesso con questo sistema? Te lo ricordi? Se deve lavorare si arriva, io arrivava passo. Poi ieri come gli ho messo quella, gli ho messo l'antenna più esterna, rimane al centro della sala dove abita lui. Quindi figurati tu, ha migliorato parecchio, prima c'era il muro vicino, il muro purtroppo nell'entrata della macchina è una cosa allucinante. Ehi, oggi ho accompagnato mamma a fare una commissione via Tempio. E a un certo punto sente questa voce. La bicicletta! La bicicletta! E sono scesi in via Zanfarino, a molti questo. La bicicletta, bastardo! Gli hanno rubato la bicicletta davanti a via Tempio, praticamente, uno gli ha rubato la bici. Casualmente c'erano vigili urbani lì, hanno messo la sirena e sono messi all'inseguimento, se non che un camion bloccava tutta la strada più giù e non sono riusciti a passare subito. Quello secondo me è già sparito. Secondo me è sparito, basta entrare contro mano, anche su un marciapiede, e quando lo prendi più. Esistono ancora i ladri di biciclette, ui. Sì, basta che va la cosa, così. L'ha trovato subito con la bicicletta, non ci deve credere che ce l'ha trovato subito. La porta va, basta che vada. Aspetta lì, vedrai come arriva il primo imbecille che arriva con la bicicletta sua, e la bella su se la lascia in terra, ci vuole molto, tanto la maggior parte della roba l'ho fatta, la portano tutta lì. Dov'è che la portano? Da quello che dice la pedaliera, che la Povertano, quindi c'è una specie di portapelo, quello che chiama. Ah, no, ma, ammetti che questo se la volesse tenere, magari se la può tenere, non lo so. Ero dentro la macchina, ho sentito queste signore, ah, la bicicletta li ha preso, la bicicletta, e poi questa voce correndo, ui, meglio la bicicletta che la macchina, o la moto, mamma mia, che brutto. Sì, magari anche la bicicletta di te, che è cosa poco io. Ecco, secondo me, lui se vuole trovare la bicicletta deve andare di là. Quando la lupa se la vendono subito, 10-20 euro, è stata una dose, e infatti, se la vendono subito i soldi contanti vanno lì, da quella napoletana, l'unico posto è lì. Carità, napoletana di nome di fatto, riprendi Claudio, chi altro c'è qua? Nessuno, solo voi? Sì, sì, c'era Natalino, non ho chiamato il telefono. Ehi, vabbè che è ancora presto, dai. Presto, oggi no, oggi si sta a casuccia, siamo andati da Lido, stamattina abbiamo preso il latte, quelle cose solite, dai, ah, me ne voglio stare dalla sera sbragato, il pomeriggio era sotto le coperte, non ho dormito ma ero bello al caldo sotto le coperte. Bella sensazione, vestito e tutto, c'ho ancora le scarpe da stamattina, non mi sono svestito perché sai, magari arrivo un pacco, devo fare una commissione, non posso uscire in pigiama, no, ci mancherebbe, il pigiama lo metto solo la notte per dormire. Certo, arrivo un pacco, mamma mia, ciao Giorgio Ordinato. Non più che, no, non proprio un pacco. Una pioggia di oggetti, piccoli oggetti deve arrivare. Sempre comprando coglionate, sai. Ehi, no, vabbè, ho comprato anche quegli occhiali regolabili, che interessavano anche a Pomponi, amico. Dial Vision, sono degli occhiali che hanno una rotellina, ti regoli la visuale per vicino e per lontano. Però Antonio, ti devo dire che io li ho usati per la TV, me li ha prestati mamma, li ho usati per la TV, sì, mette a fuoco un occhio, poi l'altro, quindi vedi bene, ma a un certo punto l'occhio ne risente, si stanca l'occhio, è un sistema che sfrutta, sì, ha una parziale messa a fuoco, ma sfrutta la capacità dell'occhio. Praticamente sforza l'occhio, mi sfrutta la capacità dell'occhio a abituarsi a una certa visione, capito? Non sono chiari veri, per lontano, per vicino. Alla fine mi stava dando fastidio alla vista sta cosa. Li ho dovuti levare, Antonino. Forse per guardare da lontano sono più adatti. Forse, dico forse. Adesso devono arrivare dalla Cina, non so quanto ci metteranno 2 mesi minimo. A proposito, io ho ordinato un pacchetto dalla Cina, una cosetta da 15 euro. Sono passati 2 mesi pieni e ancora non è arrivato. Dice che ai centri di smistamento postali, soprattutto quelli internazionali, ci hanno 5 tonnellate di posta in evasa. Stanno facendo come hanno fatto quell'anno, ci hanno proprio i pacchi di roba in evasa, perché la dogana è lunga. Cioè, fate la dogana come gli altri paesi, fai passare più roba. Insomma, le poste italiane sono anche quelle la barzelletta d'Italia, a parte tutto il resto, la sanità, la scuola, tutto. E non sbagliate un casino, si blocca tutto lì, poi vogliono vedere cosa c'è, non è così facile, no? Poi lì, adesso vedrai che fra 5-6 anni, con la cosa che hanno fatto con i cinesi, vedrai che i cinesi appena di negozio a stanza, te lo dico io, riprendita, i elettrodomestici, magari, i televisori, non c'è neanche più bisogno di andare, ci sta mancando. Vai lì e ti compri quello che ti serve, è stato lì, lo vendono tutti i circuiti, i tappati, tutto a pacchi, non siamo domani che vado dai cinesi a comprare, che ne so, lavatrici cinesi, rutinanti. La mia è una Rex Electrolux, sì, magari fatta in Cina, però con macchinari, con tecnologia italiana o europea. Sai quali sono quelle cinesi? Marca Beko, quelle macchine, quelle lavatrici Beko, quelle sono cinesi. Roba a basso costo, ma se la tratti bene ti dura anche un bella lavatrice. Insomma, ridicolo comunque che un pacchetto misero, piccolo di centimetri ci metta 2 mesi a arrivare dalla Cina, perché dalla Cina all'Italia ci mette 5 giorni, dalla Cina all'Italia 5 giorni, poi dall'Italia alla persona ci sta 2 mesi, ridicolo, rimangono proprio a marcire i pacchi, poi la dogana spera sempre di guadagnarci, no? Controlla i documenti dentro, vede se può mangiarci sopra, proprio il paese di Pidocchi è l'Italia, proprio uno stato parassita, e la dogana lo stesso. In altri paesi è molto più elastica, capito? Paghi meno, no, non sono così fiscali, vabbè, purtroppo siamo qua. Se vogliamo un paese migliore ce ne dobbiamo andare in un paese migliore. E beh, Natalonzio, che bel segnalone, ah, adesso sì che ci divertiamo. Ah, la KP1000, guarda, io ce l'ho, aspetta, tu hai la KP201, ce l'ho anch'io, non segna le stazionarie, ho provato a fianco dell'altro, le stazionarie non le segna. Segna solo quelle altissime, quando vai proprio a 29 MHz allora comincia a segnare qualcosa, ma forse per quello Smith e Bruci Baracchini ci vuole la KP1000, che è un tantino migliore, la KP1000, capito, un tantino migliore quello, almeno puoi anche accordare, puoi mettere tutti i watt che vuoi una volta che accordi, capito, l'importante è preservare i finali, capito, e 4 watt, sì, 9 più 15, con picchi positivi, ma qua è di lusso, poi basta che arrivi 9 a Pomponi o a Claudio, va più che bene, dai 115 ai 130, una cosa del genere, eia, bene. Vabbè, giustamente l'antenna messa così, anche se ha un piano di massa, non è al centro della cappotta, capisci? Quello è un po' l'inghippo. Ma e tu come te ne sei accorto delle stazionarie? Arrivo subito. No. Il rosmetro dell'apparecchio è completamente inaffidabile. Non lo usare proprio, non lo guardare. È inaffidabile. Però ricordati che se sale vuol dire che le stazionarie ci sono, se sale. Non è preciso, ma se sale vuol dire che ci sono. E addirittura a fondo scala. E così bruci tutto, bruci l'apparato. Dai, bisogna provvedere. Molto pompa. Riprendi. Dimmi tutto. Come mai sei passo di radio, Antonetti? Sento, rispetto a anche a Natalino, sì, così mi sei più basso di radio, un pochino compressa ma basso. Aspetta, buono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda adesso. È strana, sembra limitata la radio, anche se tu alzi un po', è come limitata, mentre Natalino esce bello potente, vabbè, ma quello è l'apparecchio. Flavio, non ne parliamo poi. Sì, vabbè, secondo me sei nove. Ho mica fatto male. Ha applicato l'MP4, l'ho messo in scatola. Capito? Aspetta che metto il coso, lato baracchino. Quello tuo, aspetta. Ehi. Sì, ci ci vuole un accordatore anche piccolo, Minat, lì, intanto da bloccare le stazionarie, perché secondo di che accordatore prenditi costa un patrimonio, basta roba ZG, per il baracchino basta roba ZG. Guarda, l'HP201 l'ho provato a fianco all'altro, non segna nulla, non insegna stazionari l'HP201, o va tarato, non lo so, boh. E questa carta PayPal, chissà se ti arriverà, ma chi te l'ha detto che te la rinnovano? Ma se te l'ho detto che arriverà, arriverà, dai. Arriverà. Vediamo se sto profumo. Che fai, ma? Piccia? E beh, non risponde, non mi sente. Ah, no, no, ho sbagliato io. Guarda, adesso va bene? Sì, adesso è molto più forte, Antonella. Adesso sono il collo 4000. E com'è possibile che sia più forte il Connex che hanno le S9? Se sono una bomba il cavalacchino. Perché sto usando il microfono senza verda, ho capito. E poi sono tutti e due, adesso c'è di cavolifica, c'hanno la LC. Ma strano, perché le S9 deve uscire forte come quello di Natalino, hanno lo stesso compressore e turbomodulatore, capito? Guarda che ho cambiato da, vabbè, e poi c'è la voce che più guarda la mia, Natalia, io parlo basso, già lo sai. Adesso sto usando il Connex 4000 con microfono questo qua, e beh, se no c'ho le MP4 io nel coso, quell'altro apparecchio, capito, nel Magnum S9, ah, potrebbe essere anche quello, e io ce l'ho accordato la faccia tua, il Mexibox piccolino, vedi? Poi ce l'ho accordato, non ho mai capito come funziona, che fa un sacco di pulsanti, manopole, sì, vabbè, io ho tutte le mie 1000, ce l'ho qua a casa come accordatore, e lo smetto quando ce l'ho più di 10 anni. Poi c'è con l'altro che hai visto tu ieri, le mani del 500, e poi c'è un matchbox con un piccolino portatile da lanciare in qualsiasi posto nel caso ci stasse male, capito? Però se è sempre il rosmetto ci vuole agganciato, se non c'è il rosmetto non può avere il matchbox agganciato. Perché non c'è lo strumento quello lì, no? No, il matchbox piccolino non ce l'ha lo strumento, c'è solo il manopole per fare la corratura. A meno che non li mettono lo smetto di quelli piccolini, il modello vecchio, ne ci sono in giro, costano una fesseria, ne ho venduto io l'altro giorno uno, quindi giro di quello lo smetti. Quelli piccoli, quelli che c'aveva l'antenino nel fianchetto. Sì, a Falcos, quindi, per carità, ancora ci sono in circolazione. E non ero neanche io, no, una pelle di accorrettori così per baracchino. Io ho quegli HF e basta, ci hanno sorrelato. Comunque è vero, a Sassari non hanno niente, bisogna ordinare tutto da fuori. Qua hanno solo da Tonino la 48, le solite cavolate hanno. E le cose più utili non ce le hanno, capito? Forse, però Fusaro potrebbe avere l'accordatore ZG. Lui tratta roba ZG, microfoni, forse anche l'accordatore. L'HP1000, quello grande, come quello di Pomponio, però funzionante, nuovo. Sì, Fusaro c'ha il concessionario ZG. Lo sai cosa mi ha detto Gavino? Di quel baracchino di Eugenio o Marco, cioè tutti i trimmer rotti girano a vuoto, li hanno rotti, hanno rotto anche i due delle medie frequenze, non riesce a trovarli. Oh, quello di Eugenio dato, gliel'hanno qui, caspita, però quando me l'hanno venduto e lo davano come perfetto, però esce forte, cioè a parte quello esce forte, intanto erano erano rotti, guarda. Cazzo! Era un 48 micolo che abbiamo tolto, che ho mandato a riparare. C'ha tutti i trimmer rotti, girano a vuoto, li hanno girati, li hanno forzati con cacciavite non induttivo. Ah, il 48, non quello che gli ho dato io, sono venuto un assusto. Ho detto, come fa a uscire così bene? No, quello perfetto. Era un 48. Non riesce a trovare quei trimmerini, capito? Ci vorrebbe qualcuno che ce l'ha, magari con i finali bruciati, che lo sta dando, tutto di trimmer e mette lì quel casino, che si è peccato col baracchino. Ma qual è quello modello vecchio alla barra 48? È buono, no, 48 sono tutti uguali. Gli ultimi che sono usciti sono diversi, mi sembra. Più o meno i trimmer già si assomigliano tutti, basta che controllare il valore. Magari un baracchino per pesce ne stacca i pesci a 1-1 ed è anche fortunato. Ma sapere i baracchini, io già ne ho qualcuno baracchino per pesci, non lo so. Se voi devo solamente vedere lo chassis interno, per vedere lo stampato, magari si assomiglia e lo fatto che staccarli a 1-1 li ricambia così, si mette con calma a casa, con saldatore si ricambia tutti. Quindi anche lui ne ha un sacco di questi trimmerini, ma non vanno bene, capito? Non vanno bene. Non rotto proprio quelli grandi quadrati, girano a vuoto, sono forzati, poi esce tutto a culo di scimmia col baracchino. È tutto da rimettere in sesto, tutto da riallineare, però se non metti i trimmer nuovi come fai? Ma sì, ci vuole il trimmer, magari giocate qualche media frequenza per farlo più sensibile, è da vedere un po', non so se recupera qualche 48 a seconda avanti, se si trovano da qualcuno che ha i finali bruciati, il fatto che togli i finali a quello lì che trova nell'alto, e quello si usa per pizzi, devo dire. Boh, adesso vediamo. Ma perché ci dico io che li ho portati a veneciare in grigio suo, ma leggermente, ma manco si vede, manco si nota, che almeno in grigio sono finuffi. Giusto per darle un po' di coglio, di presenza, l'avevamo fatto nero. Adesso vediamo se si trovano i trimmerini, si mette a posto, così se lo tiene di scorta. Vabbè, quello sì. Ah, ti la prendi. Sì, facci. Vabbè Marco, quindi stai spendendo, espandendo, così. Ma cosa ha sentito di magna? Se che sono, se me lo dici, fisso. Adesso mi deve pranzare. Sopra pagava. Allora vediamo un po' che c'è. Con un marinozzo. Sta diventando più grosso. Aspetta, sto sperimentando una cosa. Mi assento un attimo, devo andare in bagno a fare una cosa lunga e impegnativa. Ciao. Vai, lasciamo qua. Eugenio, buonasera Eugenio, ben sentito. Beh, Eugenio, come è andata ieri? Ma lo vedi a San Pietro a Mare? Ho detto, lo vedi ieri a San Pietro a Mare? Alla ciaccia, lo gufeo, non posso vedere quel posto. Abbiamo due impianti d'estate, non reggono, tra cima a tutto, cazzo mio casino, che fate? Non è lì al campeggio. Il campeggio della ciaccia e International Station, quello di uno che conosco, e che si dice mi sono costruito un coso adesso lo provo se funziona. Un coso? Ti è costruito un coso? Che cosa? Sono agganciato, non smetto con la cosa, era matchbox proprio con un piede maschio. Così posso farmi uno smetto accordatore. La faglietta che corre con il piccolino, modello MRC2. c'è Nattarino, che serve a lui, non a te, tu non hai stazionati. Non ne ho per niente io, ma quale? Appunto, siccome già lo so, quindi se funziona, vado a Nattarino, ma così è più tranquillo, può tirare sulla potenza, può lavorare meglio. Capito, attesa che si metta bene l'antenna. Io capito, sto provo se funziona. Siamo qua, già siamo qua. Antonio sta provando con Matchbox. Mi ha agganciato una rosa, ne trovate, adesso vediamo se funziona. E così momentaneamente si quello. No, ma dovrebbe avere qualcosa a fusare, comunque bisogna avvicinarsi a fusare. Capito? Aspetta, se funziona quello devi spendere i soldi. Se funziona quello, una scatoletta, lo metti uno sopra l'altro ed è alla stessa altezza del DM1000, capito? Adesso lo sto provando, se funziona oggi quello. Oh! Ehi, qualcosa c'ha fusato, perché è concessionario ZG, capito? Eia! Io ci ho comprato due microfoni, uno da tavolo e uno manuale. Sì, l'MV4, l'MV5 l'ho comprato anche io. Capito? Poi c'è il microfono così da palmo. Però penso che abbia anche qualche strumento, magari in vetrina. Ma sì, abbia proprio il TM1000. Eia! HI. Per esempio, alcuni l'HP1000, TM1000, io lo chiamavo TM1000 perché il vecchio si chiamava TM1000, mi pare. L'HP1000, certi lo vendono a €150 in rete, più la spedizione, certi te lo fanno pagare tipo €117 più spedizione, quello è un buon prezzo. A Sassari glielo faranno pagare prezzo pieno, penso. Sai, c'è anche il trasporto che è compreso. Beh, certo che sì, non ti arriveranno da nessuno. E allora, sei, quello di Antonello è vecchissimo, è tutto a scatti, tutto sale, scende, sai, così andate, come si chiamano quei pomelloni, sono troppo ossidati, è troppo vecchio, è tutto scrostato, no? Quello ha fatto tre o quattro decenni addirittura ha fatto, capito? Il secolo scorso è nato quello di Pomponio. E se funziona sono i vernici, e poi il coperchio, lo raschi, lo pulisci, lo vernici, poi il pomellino, una passata di disossidante, lo rendi più umano, l'importante è che funziona. Ho visto di peggio, i baracchini e gli strumenti, tutti arrugginiti. Già, lo si zero, il passaggio CVC, perché i pomeri vanno bene, no, ma è passato il CVC, già ce l'hanno quel team mi dice io. Infatti, non sto dicendo per questo, queste cose già si possono sistemare, l'importante è che funzioni. Ma cosa va bene mio? Io voglio, d'accordo anche bene. Ancora benissimo, quel match box piccolino che ho io non serve a nulla, mi sa quanto un altro ho lanciato con un altro aspetto piccolo e più di tanto non scende, capito? È meglio il TM1000, a meno che non provo quella specie di che non ho mai usato, quell'accordatore famoso, quello che c'ha tutti quei pulsanti, allora quello deve andare per forza, è un nuovo. Se non vi serve, dateglielo voi il TM1000 a Natalino, momentaneamente, poi si vedrà, se c'è qualcuno che ce l'ha, basta darglielo. Io gli avrei dato il TM999, se avesse funzionato, però io due ne avevo comprato e due ne ha rovinati, non funziona più la parte accordante. Ma sai perché? Perché anziché le lamelle vere e proprie ha dei ridicoli, cosa sono, potenziometri, Antonè, nel TM999 sono due potenziometri geometri diversi, però non so come definirli, e due ne ho comprato, accordatore da macchina, due rovinati, diciamo quello per accordare andava bene, purtroppo. Oh, è arrivata la pizza, raga, mi do la pappatoia, pizza ne vuoi Claudio, ne avrei le tasche piene. Pizza no, oh. Pizza ce l'ho solo, filazzo ce l'ho la pizza io, ce l'ho stasera, tu figurati, io mi sono fatto il pollo. Se pare stasse la pizza, oggi ho quella pizzetta che vendono da Luspi, quella è quella da 3,45, sono anche buone, sono soffici, soffici, quando mi metti nel fornetto. Ma è quando ho fatto la sera a chiusura, porta mia figlia le pizze, capito? Tutto quello che ha fatto solo di vita, non più una gioia di fattere bene, ma mia pizza, assolutamente. Dove sono? 6 e 5 da mangiare il cane, dai. E me l'hai trovato, funziona questo cacchio di scafuso. No, invece Marco non si vede nulla. Non c'è, no, non la cosa più di tanto. L'ho lanciata da aspetto piccolo, ma non si vede nulla. L'unica cosa che c'è ultimamente mi funziona bene. Quello ha mandato la c'è tutta a 0,90. Dopo lo apro, mi scuso un po' di cinecina, ma lo parla del coso così. Arrivo subito, vado a mangiare il cane un attimo. Antone, quando parli non si capisce la massiccia. Ciao Benito, ho le mascelle impegnate, ben sentito. Ti mando Antonello, dai. Cazzo Benito, c'ho questo nome. Eugenio, Eugenio, come quello di Eugenio Eugenio. Cazzo Benito, boh. Vabbè, dai, ti lascio con Antonello. Eugenio Finardi. Tutto solo. Aspetta un attimo che sto aprendo quello, smetto così, si passa il CVC dopo tanti anni. È molto alta, se mi parlavo distante dal microfono. E adesso tendo a tappare. No, mi sono messo più distante dall'apparecchio parlando. Capito? Adesso va bene. D'accordo. È duro scappellazzo. Dovessi fare come loro così freddi, andare all'isola dei famosi, cominciavano tutti i giorni due scappellate, fritano della mosso un animale e non lo sta più usando. Ma io c'ho solo la metà della chicchia che ha lui. Sì, che c'è? Basta le funzioni mie, metà. Guarda che basta le funzioni, non c'è nessun problema. È inutile avere la lunga e poi sta cacciata in culo, perché non fai nulla, quando ti vengono così manco ti vogliono. Di che cosa? Di Rosmetta. Se c'è un coso non ti accordato non va bene lo stesso, anche se non è HP1000, mi parli funzioni. E ho capito, non è fatto da lui. Che cosa con la cappa? Che rinnovo. Io ho un matchbox, ma l'ho provato a salire in tre categorie. Non va bene, non funziona. Cioè funziona, però non scendono più il tappo. Se ti vuoi prendere quello, l'agganci dell'apparecchio, l'agganci ti fa la taratura così. So che c'è sempre bisogno di uno, smetto il discorso è quello. Te lo ordineggio io. Capito Natali? Te l'ho detto, non c'è problema. Tu mi dai i soldi, li metto sulla carta e te lo ordino io. Già lo sai che non vedi già problemi, no? Poi quando arriva me lo tengo io. Guarda, c'è CRT Elettronica, sono siciliani, è il negozio che lo vende a prezzo più basso. Se ce l'hanno disponibile, noi tra stasera e domani facciamo tutto, capito? Se ce l'hanno disponibile, perché lo danno a un prezzo ottimo, tipo 117 euro più la spedizione, saranno 9 euro saranno. Natalino vuole l'accordatore, rosmetro, wattmetro, accordatore d'antenna, ZG HP1000, perché ha stazionarie con quell'antenna da macchina messa così, capito? No, no, l'ha messa fuori della finestra con un palo, con la massa effettiva, però sai, stazionarie ne ha sempre un po'. ha cambiato lui da Santiago Ozzo a 9:15, quasi 9:20. Natalino, ti chiamano, lo senti Eugenio? Siamo lì alle pizze. Venga, mamma mia, cazzo, ci ha messo Alice i capperi, una bomba di sale. Sale non ce ne vuole, la pizza l'impatto è già salato. Perché a Porto Torres? Vabbè, ti sente, ma sono problemi suoi, non tuoi, no? È lui che abita dentro un piccolo. Avete lo stesso segnale, figurati. Sta arrivando uguale. 9 sta arrivando lui e 9 sta arrivando tu, Natali. Solo che lui c'ha l'antenna grande. Tu c'hai l'antenna di macchina nell'avanzare della finestra. Ah, buono, ottimo. Ottimo. Ah, boh. Oramai le antenne VHF, prima un tempo ce l'avevano solo i radioamatori. Adesso ce li hanno anche i CB, chiamati pirati. Non lo so, oggi. È tutto pieno di antenne VHF, ormai ce l'hanno tutti, un prestatore del PMR, compra le antenne VU, di banda, le piazzano, capito? Sono tutti piratici. Non lo so, ma è un attore, io via, quella via lì non le conosco, assolutamente. Sarà Vicolo Sassu, Vicolo Sassu, lei chi lo sa, magari ce l'ha 20 anni. Come dico io, comunque, viva la pirateria, in tutti i campi, viva la pirateria. Inteso, Eugenio, da quando gli ho dato quell'apparato ho sempre ragione, cazzo. Riprendi, cazzo. Vai, Lecchino, Lecchino. E se ci sei, Eugenio, Lecchino diventato la chiesa. Ui, ui, come sto? Sabato di nuovo fuori devi uscire, eh? Ah, ma qui sabato andremo? Così è, kickbox, bello, uno sport che mi piace, uno sport che mi piace, non lo seguo molto, ma già quando c'è già lo guardo, mi piace. Ok, vabbè, adesso vediamo se riusciamo a andare di venerdì, se è già disponibile. Andiamo di venerdì sera, chi vuole venire viene. Chi è impegnato pazienza, se no non andiamo più. Buongiorno, andiamo a vedere Eugenio che combatte quando è vicino a Sassari. Beh, non va buono. Come? Che non va buono, vogliamo andare a vedere un brocco. Cosa ha detto? Allora, se ci avremmo dovuto dire a Eugenio, cosa hai detto? Vedi, vedi, Lecchino, vedi. Allora, andiamo Marco, fai le foto a un brocco, andiamo. Boh, io quando parlo per avere campioni, ed è un brocco, cosa? Lui è un bravo camperista, è buono, cosa? È Eugenio. Eugenio, è uno sportivo brocco, è un bel culo, baronaggio e Barry Tyson. C'ha una faccia da cattivo, ma sai, quelli proprio, cattivo come te che è te. Poi un buon poverino, non fa male a una mosca, Poi basta, gli guidi il camper ed è tranquillo e sereno. Cosa ci rivendi? Mi ti vedo che ci rivendi. Con te ce l'ho, ti vedo da qua che stai rivendo. Non mi dici non fai il naso da bucile, Sì, ce l'hai un po' schiacciato. A me sembrava più che facessi il pugilato che quello sport. Facciamo combattere Eugenio con Pomponio. E io si invece una moto pompa. Così mi ha colpi Pomponio, capito? Oi, oi, Pomponio indifeso. La violenza sul ring. Mancato Dyson, Eugenio. Ehi, Natali, dimmi. Aspetta, sto mangiando, te lo dico dopo. Sì, Natali, però accertati che sia disponibile l'apparecchio. Ma perché non è vendi il tuo, testa di uccello? No, il mio è mio. Il mio è mio. Dai, già lo teniamo da lì. Natali, guarda Ciriti elettronica, c'è scritto disponibile o in arrivo, controlla. E tu te lo riprendi, Marco, intanto tu non lo stai usando, lo usate in affutti, a lui le serve subito. diavolo. Mamma le trasforma in bombe queste pizze. Sono pizze già pronte, no? Poi ci mette ciù e capre, le olive nere, olive verdi, olive rosse, di tutto ci mette. Poi diventa una bomba. No. Pizza, deve essere pizza, la fai tu. La vendono allo spilla fatta per la pizza, già pronta. La prendi, la condisci ed è una alla fine del mondo. Io prendevo sempre quella prima che mia figlia portasse i rimasugli. Capito? E va bene, queste pizze tonde usci comprate così, no, io ci vado molto a torto. Telefonami. Io poi domani, domani vado alla banca e metto i soldi dentro, capito? Te lo riprendo, però telefonami perché sono tutto. Dai che sono un attimo incasinato qua, ho le mani fatte d'olio, non posso parlare al baracchino, dai, fammi telefonami che mi lavo le mani. Ecco, bravo, fa una buona azione, visto che Eugenio dice che hai sempre ragione, abbi ragione anche questa volta. Vai Natali, prenditi quello, porta le soldi e lui se lo riordina. Il suo pipistrello che tanto non lo stava operando, lui ha detto ti serve subito, così puoi sollevare la potenza, puoi tenere tutto sotto controllo. Vabbè, tutti morti. Oi, mi sono lavato, pulito le mani, dai. Pizza pesante, guarda. Infatti non mangio altro, la frutta più tardi. Chi c'è rimasto qua? Oh, io e Natalino. No, ma Claudio, sai cos'è? Che il mio è bello tarato, cioè so che funziona bene. Se me lo faccio fare, magari mi arriva, l'altro arriva ed è, non è preciso, capito? Fidati, ciò che è mio resta mio. Lui già se lo ordina. Se no il mio glielo devo dare a quanto l'ho pagato io, di più dell'ho pagato di quel prezzo. E Pomponio che fine ha fatto piuttosto? Catamone, tiriamo, per furgone. Ho sistemato lo spettacolo con la zona, scusa, bene. No, la pora perfetta adesso. Non è più che devo stare in mezzo una centrata, adesso è perfetto. Poi sistemato il TM1000, in un giorno non lo sistemavo, come in cosa sono io? Come calzolaio, roba mia, l'ho fatta, l'ho sbagliata, la faccio subito. Guarda, ha inteso un bimbi, aspetta, lo guardo. Sì, sicuro. Guarda che hai scritto, naturalmente sono quello di sotto. Sì, ma lì ci vuoi prendere i colpi. Ma è l'erba, sì. Va bene, va. Allora, va bene. Adesso stiamo andando a Marco. Così, vede un pochino. Caput, bravo Gino, bravo. Marco sarà orgoglioso di te. Sì, aspetta un secondo. Glielo mando. Sono qui nomi. Sì, tornato, sì, bello bene, tornato. Eia, sì, sono qua. Ah, questo è il combattimento che fanno, così è. Eia, sì. Che si intorcinano tutti, usano calci, pugni, tutto. Si fanno la pipì addosso uno con l'altro. Eia, la pupù anche. Allora. Ho visto, guarda, in televisione qualcosa guardavo. Però credo che fosse americano. O di dov'era, non mi ricordo. Poi hanno fatto anche film, credo, almeno credo, con quel tipo di sport, o sbaglio. Eia. Sì, poi vedo qua c'è una foto, due tutti attorcigliati. Mi sembra quasi la lotta greco-romana, sembra. E beh, si è bloccato il tasto, vai, non è un buono. Ah, ecco. Ho capito. Cioè, così lo atterri con quella mossa. Chiaro, perché posso fare io, me. Paralitico come sono, guarda, io per come sono intorpidito di legamenti, di tutto, e come che fossi uscito dal coma ventennale, non sto scherzando, io fisicamente sono a terra, proprio a terra, non ho mai fatto sport in vita mia, e la mandronia acuta è quella, capito? Però ne sto pagando le conseguenze adesso. Potevo fare anche nuoto per la schiena, invece lo sto pagando adesso e lo pagherò anche in futuro. E il problema è che la schiena è già compromessa adesso. Tu la mia banda conosciuta la io. La mia banda Porto Torres, Porto Torres. L'hai conosciuta la palestra di giuro sotto il palazzo di coso di. Che via è quella? Via. Non ricordo. Qualche mangattia lì. In che anno? Ho fatto l'interfaccia a Roma, io per Nera. In che anno? Siamo andati io, la buon'anima di Maurizio Grassi, Giuseppe Giorgo, Costantino Bonomo, Silvano Crubetto, Carlo Caravagna, chi c'era? Aldo era Giannera. E Gavino Virdis, il macellaio. Siamo andati a Roma per fare l'interfaccia per Nera, tutti. Non ti ho conosciuto io lì. Quella era la mia greffa, ma ne abbiamo vinto un bel, una bella squadra c'è. Allora Marrone ancora. Allora Marrone, sì. Allora ancora Marrone, non era ancora maestro altro. Perché c'era Salvatore Barbera, lo stesso, poi chi c'era? Ah, è Mimmo Petruzzello, che poi è diventato Nera. Nera, Antonio Piovanacci, che è diventato Nera. Noi, io e Tino, avevamo fatto l'interfase, Giuseppe aveva mollato, Domenico Fusco era arrivato a Marrone lo stesso. Io e Tino, mi sembra, io, Tino e Mimmo, mi sembra che era metà e metà, Marrone Nera, perché ci mancavano 60 punti. Io avevo perso a Roma la semifinale per Nera. Non aveva detto a me. E poi ho mollato perché poi mi sono sposato, quindi ci avevo 23 anni. Avevo 23 anni. Era una bella squadra, c'era proprio Torres. E ma Domenico si faceva chiamare maestro, ma non era maestro. Era Marrone, non era Nera. Non è mai diventato Nera, capito? L'unico che è diventato Nera Porto Torres sono Aldo, Mimmo Petruzzello e Antonella Piovanacci. Siamo rimasti tutti tra il marrone e il nero, però patentino per allenare non ne abbiamo preso, abbiamo perso tutti abbiamo perso, mancuno. E che mi incrocio tra una ragazza e un maschio, siamo visti a poco con Antonella, fatemi la verba, siamo visti a sangrare la cosa lì da Teseo, da Massimo, da Massimo Sata a mangiare la pizza. Infatti, a te che non viene a Protosi, non avanti, vai a 57 anni, no? Non so come manco più, ma ti si va già caduta, figurati. Però si potrebbe ricominciare, giusto un po' a fare un po' di allenamento, vai. Giusto a accoppiare i bambini, a seguire i bambini, però non è più come prima. Bisogna essere preparati per allenare i bambini, e oggi, se si sbagli e se fanno male, sono cacchi tuoi se non hai patentino. Tutti li ho fatti in guida scimmia. Quando mi sono ritirato ero al tabellone, l'ultimo Guido Sieni al palazzetto dello sport, ero al tabellone, però forse non ci conoscevo, ero al tabellone perché mio cognato è sposato con la figlia di Sieni, capito? Monica, quindi vabbè. Guido era un grande, vedi, ha sbagliato con tutto il fiato che aveva, con tutto l'allenamento che aveva. Il mare bisogna averle di lì, purtroppo. Il mare, io ho sempre detto che un pescatore che è nato in mare, un pescatore che può essere nato nell'acqua, che è partorito nell'acqua, però bisogna andare sempre di lì, sempre di lì, perché il mare è trovato sempre di lì. primo passiere. C'è la madre, a casa di mio cognato, siamo sempre tutti lì, ogni tanto si parla anche di queste cose. Pazienza, pazienza. Ok, dei tempi, non lo sapevo. No, io avevo una bella, era una bella squadra veramente, soprattutto a noi ce l'avevamo il maestro Frigau, Antonio Frigau, a volte scendeva Canopoli, ma molto poco. E Giovanni Satta, non so se l'hai conosciuto. Giovanni Satta, quello dei nostri maestri principali. Poi Aldo era, non era ancora nera, è diventato, quando praticamente abbiamo quasi mollato tutti, dai. Quando abbiamo mollato tutti. Vabbè, Maurizio era molto bravo, non so se l'hai conosciuto Maurizio Grassi. Roberto Boselli, di Porto Torres, figlio dell'armiere, Roberto era molto bravo. Molto bravo Roberto, grande tecnico, Davino Caravagna, molto bravo, Carlo, fratello, sì, una bella squadretta, però, poi sai, una volta che conosci il Ciuccio e le inizia a farti famiglia dell'Ambassata Gana, lui è rimasto Mimmo e Antonella che sta sempre continuando. Vabbè, manda le ciance, mettetevi, sono contento. Avanti Marco. Sì, un attimino che sto guardando questo sito di CRT elettronica. Sì, disponibile. Ho notato sul display in basso al centro questa lineetta microscopica invisibile lunga 6 mm, no? Non capivo cosa fosse, perché c'è il vetro, la plastica di protezione, no, sul display, ed è una ferrossurazione del vetro, cioè si è rotto il vetro per una lunghezza di 6 mm circa, 5-6 mm, e non si notava perché la plastica proteggischermo lo ha preservato un po', non si è allargato per quello, perché a me è caduto 3 volte questo telefono. Sì, l'ha salvato il coprischermo di plastica, se no si sarebbe spaccato tutto di lungo, però vedi, un po' ha lasciato il segno, quindi devo stare attento a non farmelo cadere di nuovo, se no va cambiato il vetrino. E dalle, questo microfono si incanta, mamma mia! MP4, MP5 che si sfila da destra verso sinistra, e ti si aggancia allora. Oi. Gianni non si è sentito, come mai? Attento Gianni, doppio root. Beh, quindi le dai il tuo e tu te lo riordini. No, come ho già detto, il mio è collaudato, so che va bene, il wattmetro è quasi abbastanza fedele, l'osmetro lo stesso, magari quello che arriva è tutto starato e ce l'ho beccata lì. Vai, starato è un gabudu. Possono essere mai starati quelli, sono precisi, con una roba a coppe nuova e poi c'è per garanzia, quindi non ce n'è problema. A me non mi è mai capitato di avere, io ho comprato quello della Daiwa, la incrociata che mi serve, ce l'ho solo per l'accordo dell'amplificatore, per essere più preciso, è perfetto. Perfetto, altri strumenti, poi ZG e un altro. Non è un ZG, non sono strumenti affidabili, per conto mio è puro, per un baracchino può anche andare bene. Cosa stavo pensando? No, siccome il mio se va bene, voglio che lo abbia nuovo lui, che lo abbia nuovo, aspetta un po', ecco, mette tutto al minimo, basta avere 4 watt, una radio normale, senza troppi picchi, se non l'ho bloccato fino adesso, tocchiamo ferro, tocchiamo anche le palle, Le ordino domani stesso, perché va pagato subito appena l'ordine, quindi domani vado in banca, carico i soldi sulla scheda e pago la carta di credito o PayPal, quello che dicono loro, dai. Io sicuramente sarà PayPal. Se prendi un attimo il telefonino, vuoi chiamare il mio collega che ti voglio sapere per domani com'è la situazione. Ehi, telefoni con i tuoi colleghi. Ehi, speriamo che si ricordi il cognome natalino, se no mi tocca scendere in strada o affacciarmi. Che non se lo ricorda mica il cognome. Sa la casa ma non sa il cognome. E dopo mi affaccio, dai, così appena arrivo scendo. Adesso mi guardo le condizioni di vendita di questo negozio. Non ci ho mai comprato, ma a prezzi anche buoni, i baracchini costano meno, tutto costa un po' meno, salvo eccezioni. Vediamo un po'. Servizi, contattaci, condizioni di vendita, non ce n'è qua. Aspetta, guardo meglio. Cosa vuol dire condizioni di vendita? Cioè come viene spedito, quanto viene spedito? Sì, che pagamenti accettano, quanto costa la spedizione. Di solito lo mettono, condizioni di vendita, vediamo. Copyright 2007 CRT elettronica, ma non hanno più aggiornato... Io l'avevo già comprato da questo sito, mi pare, un HP1000, sai per chi era? Per Antonello Di Ossi, che io ricordi, l'avevo già ordinato. Sì. Quindi dovrei essere già registrato su questo sito. Qua vedo per esempio PayPal e le carte di credito, va, a posto siamo, dai. Sì, di solito si ordinano tutti con PayPal. Certi però ti fanno pagare le commissioni in PayPal e la fibbia natale anziché pagarle loro, capito? Quindi alle volte è meglio pagare la carta di credito, lo sai. Dipende da quanto è secco il negozio. Certo che sì. Certo che sì. Ormai sono tutti così, no? Dottore Scatola. Non ho capito perché metti un prezzo fisso, compreso il trasporto, compreso di tutto, quanto costa? 115, 120, compreso il trasporto. E fai tutto una cosa, guarda un po' a burro. Che bello che è il figlio, l'ha fatto guardare da piccolino. Non ho capito, che bello che è. Eh zio, c'è su Facebook, ha messo una fotografia di quando aveva 5, penso 8 anni, una cosa del genere. Ancora siete con Facebook, mamma mia, andiamo a due giramenti. Ma ha messo la foto sua, quando era giubile. Leia, ecco qua, ho provato a metterlo nel carrello. Trasporto con corriere 7,50 euro, buono, non è né 9 né 10 euro, 7,50. Quindi apparecchio più spedizione totale 123,20 euro. Ottimo. No, 7 euro si può pagare, ma io avevo ordinato, adesso non mi ricordo che cosa cavolo, sto guardando qua in giro. Non mi ricordo, non faccio memoria. Comunque mi avevo sì, degli spinotti per che mi servivano, dei connettori che mi servivano a 8 di quelli, insomma dei connettori. Avevo pagato 10 euro il pacchetto dei connettori per 7 euro di trasporto. Ma come si fa? C'è una busta, era una busta, mi è arrivata dal postino una busta. Diciamo che alcuni venditori non sono elastici, cioè se tu gli chiedi un paio di connettori, loro non te la spediscono tramite posta normale o raccomandata, no, basta una busta da lettera, ce lo metti dentro, secondo me cos'è, soprattutto se è piatto, e te la mandano come lettera, 2-3 euro, la fraccatura da lettera. Cioè, sì, i venditori invece hanno questo prezzo fisso, cioè che tu compri un apparecchio da 3.000 euro o una vite, il prezzo è quello. Purtroppo non sono molto elastici certi, invece alcuni sono molto più intelligenti. Se compri una fesseria te la mandano in busta di lettera, busta da lettera proprio, 2 euro di spedizione. 7 euro me l'ho fatto pagare, 7 euro, ho preso il connettore N, ho adattato N, qua non ce n'è, ho di PL buoni, e poi mi servono degli spinotti per... in 3.000 e quindi avevo ordinato quelli per dietro, quel pannello di dietro. Ho fatto 10 euro questa bustina di fesserie, 7 euro di spedizione, ma Marco, una di quelle buste gialle lì, è protetta, beh, di quelle, capito? Una di quelle lì, una di quelle buste gialle, 17 euro. Ehi, ma sempre da CRT elettronica? No, era un'azienda, uno che fa queste cose, mi ha dato il nominativo, il sito, io non mi ricordo, Giovanni si chiama, non mi ricordo il nominativo, è un radioamatore che ha un laboratorio tecnico, capito, vende queste cose, PL, connettori, ti prepara gli adattatori, ti fa tutto quello che le chiedi, tappeti per i computer, spinotti per i computer, tutto, tutti i cosi, se tu le chiedi per dire il cavo già pronto per un rotore, per i collegamenti a rotore, lui te lo prepara e te lo manda già pronto, fa questi lavori, fa queste cose. Insomma, il prezzo era buono perché i connettori li ho pagati a un prezzo buono, tutti gli attrattori e queste cose, ma 7 euro di trasporto, infatti l'avevo telefonato, ho detto Giovanni, ma è così, le poste qui, là, voglio, ho detto ma 7 euro di trasporto, cioè è una busta, l'ho detto, allucinante, dai, e va bene, la prossima volta ti metto qualche connettore in più, vabbè, ok. Come si suol dire, devi subire, Claudio. Lo so, molti sono poco, così poco elastici nelle spedizioni. Aspetta, Natalino, sei qua? No. Vabbè. Ascoltate, facciamo così, siccome lui non sa il campanello qual è, non si ricorda il cognome, mi affaccio alla finestra a vedere se arriva, dai. Se no non ha baracchino in macchina, cosa deve fare? Si deve mettere a gridare in strada. Marco! Che telefono ce l'ha? Ti può telefonare, mica sono sotto, scendi. Ah, giusto, è vero. Non ci ho pensato. Riprende Eugenio. Per forza ce l'ha. Chi è? Chi è? Vale, tu sì. Gianfranco. Chi è? Ci sei? No, pensavo che non c'eri, perché sai, mi preoccupo. Oh, cazzo vivo, sarà quello di casa. Sono impagliatissimo. Ma l'importante è che ci sia, dai, non ti preoccupare. Allora, che è voi con niente? Tu eri, ho visto un tutum, però no, non capivo chi era. Bene, caputo. Sì, vabbè, ma cazzo, qualche volta tu li mettitela in tasca. Meglio, uscito che un guarnigione. Che bello, mamma mia che cosa bella, non c'ho tasche bucate, un guidolito, tric. E lo vado. Ciao Massimiliano. Ciao Marco, buona sopravvolta. Ehi. Poi Claudio, non ti avevo detto una cosa, ieri, a parte la scatola dell'apparato, gli ho dato l'apparato gemello, il Magnum Delta Force, dell'Albrecht Magnum, quello funziona bene in AM, però è gemello di quello che gli ho dato. Funziona bene in AM, ma in SSB trasmette un fischio, capito? Anche senza parlare, un fischio, è da ricavare qualcosa, insomma gli ho detto prenditelo come pezzi di ricambio. Funzionante in AM e FM lì, o te lo metti a posto o te lo usi come metodo di prezzo di cambio, perché sono uguali gli apparati, a parte che non ha il doppio onduratore e il finale è normale, capito? Ecco, cos'è Massimiliano, quello di Eugenio? Mi ha telefonato questo Gavino, collega di Vittor Cognato, si conoscono anche, hanno lo stesso nome. C'ha tutti i trimmer, tutti i vini, manco tutti i fasciati, girano tutti a vuoto, ma soprattutto i due della media frequenza, no? Quelli quadrati, quelli girano a vuoto, li hanno forzati con un cacciavite non induttivo, li hanno rotti. Adesso li avessi, si trovano quei trimmer. Era 48 di Egidio, tutti completi girano a vuoto, capito? Perché gli ha attaccato la, l'oscilloscopio, gli ha attaccato insomma tutto quello che deve attaccarle, praticamente è tutto fuori frequenza, tutto scalato. E è andato a toccare appunto i trimmer che si devono mettere a posto, girano tutti a vuoto, sono tutti rotti. Ma di chi era quell'apparecchio? Chi è il cane che ha fatto quel lavoro? Non lo so, ma non lo voglio sapere. Eugenio gliel'hanno regalato e gliel'hanno dato così, quindi non lo so. Il fatto è che adesso è un vero peccato, perché è anche ben messo, però adesso guarda, se qualcuno riconosce lui, c'è qualche anno 48 dismesso, va bene, se no casino, se no se lo rivedi di così, capito? Perché funziona, però già lo vedi come esce. Vabbè, ma ce l'ha nel campo e lui, quello nuovo, esce veramente bene, anche ieri era nella zona di Marrizza, arrivava benissimo qua, capito? Però a casa c'ha quello che gli ha tutto, quindi diciamo che è a posto. Quello è un peccato. Adesso vediamo se qualcuno c'ha qualche 48 vecchio da prendere i trimmer e rimettergli. Comunque detto che tentava di fare l'impossibile. Vedi la differenza mia? Certe persone regalano la roba perché non funziona, io la regalo funzionante. E l'apparecchio a Eugenio gli ho dato un apparecchio funzionante, un Alan 48 Excel Multi, visto che il suo non poteva essere sentito, io non lo usavo più quello. Non usavo più, perché poi con quelli multicanale, apparecchi multicanale, sono sempre con quelli. Gliel'ho dato, proprio regalato. Era entusiasta lui, entusiasta perché ha una modulazione così forte che sembra amplificata, capito? Quello è un bel regalo, spoiler è nuovo, buonissimo in condizioni, originale tutto. E almeno è presente, capito? Esce bene. Se tu lo vedi dentro Massimiliano ti metti a piangere per l'esperienza che hai con quei baracchini, è tutto toccato, poi ci sono fini saldati, ponti, controponti, non si comprende un accidente, però è tua, non mi frega niente, tanto funziona, però metti a posto la parte del trasmettitore, come è attaccato lo strumento, è tutto starato, tutte le medie frequenze starate, molto vabbè. Adesso sappiamo che cos'è e le metto mano. E allora tocca al primo dream a regia, tutto a biodo, non registra neanche, tutti rotti sono. Ma è vero che ce l'hai aperto, quelli quadrati che ci sono in fondo, no? Quelli in ferro, quelli girano a vuoto, completamente a vuoto. Non so ferro, e io vabbè dico ferro esternamente, quelli lì quadrati, ci ho mai capito, quelli lì. Quindi completamente a vuoto. Poi di due addirittura ci manca il puntale dove metti il cacciavite induttivo, no? Quindi ci hanno messo un cacciavite in ferro, hanno girato e hanno rotto la plastichetta. Ciao Gianni, avanti. Buonasera a Tolos, dai! Facete la commissione, adesso rientra. Sì, infatti ti abbiamo chiamato, e sono le 7. Come te mai il doppio rutto non c'è? Ero dal dentista, stavo facendo la pulizia di lì. Parli del diavolo e spuntano le corna. Ciao Gianni. Ma sai quella barzelletta, ciao Marco. Ma sai quella barzelletta di quello, di quel credulone che è andato, che praticamente la moglie doveva partorire e a lui l'hanno chiamato fuori morale, quindi è rientrato dopo che aveva partorito la moglie da 3 mesi. E è rientrato e ha trovato moglie con un bambino negro. E ha detto come mai era nero, e la moglie gli ha detto perché mi è mancato il latte e l'ho fatto allattare da una negra che aveva un figlio che ha partorito quando c'ero io, e ha furia di allattarlo, quest'anagramma deve diventare nero. Il macco di sangue gli ha detto dalla mamma, gli ha detto, oh, ma ho visto il bambino molto bello, solo che è nero. Dice, come mai è nero? Perché Laura non c'ha latte, l'ha fatto allattare da una negra, dice, è nato nero. Dice, anche io mi mancate il latte, mi dà quel latte di Parigi che mi è nato fino al burro. Io penso, direi io ma creduto, guarda, per carità. Bravo Gianni, bravo. No, io vado qua da dental, vabbè, questo c'è piatto le 6. Sono andato 2 settimane fa, fa pulizia di. Perché mi dentista era ero, ne avevo voglia di andarci, allora sono qua, intanto il prezzo è uguale, sono andato. Avanti Massimiliano. Ciao, non lo senti Massimiliano? Come è andata la gara? Non l'hai portata a Gaia? 19. Ah, 19. Ah. Va bene. Voglio aprire, metà aprile c'è la gara Filippo. Non li stanno però. C'è una mostra di bulldog inglesi e francesi. Secchio. Bene, ci ho portato questa correttore. Tutto a posto, funziona bene. Si è passato più vicino e nel potenziometro è perfetto adesso. Bene, almeno funziona, beh. Sì, già da un giorno che era così, che aiuta di tutto. Però almeno funziona. Adesso non smette. C'ho quello del 500, il TM1000 e quell'altro verde. Quello militare. Da 3 a 200 MHz. Da 3 a 200 MHz, quindi va bene, buona correttore. Solo lo smetto questo. Ho capito. No, quello che c'ho io fa VHF, HF e 50 MHz pure. L'unica cosa che c'è quella con la correttore che ho. Uno di questi giorni voglio provare ad allora a qualcuno a vedere se va in corso in 40 in città eccetera. Voglio farlo provare per cadere il mattone a vedere questa contatore qua. A vedere se funziona. Non l'ho mai durato. Ci ho trovato un giorno una volta in 27 e ho visto che è corta. Ho di uno scatto. Non mi sono mai fidato, ho usato con l'altra parecchio se magari piglia poco. Allora io ho un wattmetro, solo wattmetro però, è anche bello. Tu hai presente un BV131, uguale al BV131, stesso strumento dei watt, però dall'altra parte c'è scritto range 10, 100, 1 kW, con le tre posizioni. Il modello è DUM Load Wattmetro, Vertagin modello DLW500. Sì, c'è bello quello. A voglia. C'è bello. A voglia non smettere con l'altro. Una cosa che invece boxe che non ho provato poco fa, quello che ho detto, non se ne ho cazzo. E poi mi è rimasto il coso, con la Gigio che si aggancia in macchina, attacchi l'antenna alle baracchine o con lo stereo. E c'è il cavetto con gli attacchi pieni, infatti la posizione dell'antenna alle baracchine, ma anche per avere le due antenne in macchina. Ho capito. Ma questo è uguale al BV131, preciso identico. Sono evidenti che se è tutto nero. Bello, nuovo. È un wattmetro solo, sino a 1 kW. 10, 100 e 1 kW. Ah, questo fischiamo. No, niente, fischio già c'è a posto. Avanti Marco. Abusivo. Sì, abusivo, eh. così, può voler dire. Ci ha detto qualcosa qua, mi ha regalato un barattino, anzi Mario mi ha regalato, la verità, un HF 16 canali, c'è un quattro solo, come se di tutti gli altri quattro, ma insomma quanto vengano, chiedo a Tonino per quanto mi spara, e secondo me già ce l'ha fatto lì vicino. Che cosa? Non buttare niente, che cos'è? Un coso, un Yaizu. No, sto con Yaizu, aspetta un attimino, voglio vedere la marca. Un FTC 152 A. Ma cos'è base veicolare? Che cos'è? Veicolare. E qual è il problema? Mi mancano gli altri quanti, ne sono due. La frequenza è 162. Fissa, diciamo che c'è 16 canali. Ne avevo 25 quanti, hai capito? All'interno non avrei macchina di quelli vecchi, quelli non vecchi, questo lì. Questo è, c'è un filare di quanti. La sezione di ricezione, se no gli altri canali non ce li ho. Vecchiume! Mondezza! Ah, è civile, io pensavo fosse di quelli che servono a noi. Non civile quello, ci vogliono i quattro, se no è un casino. Posso mettere lì, c'è la frequenza che voglio, per dire, posso mettere lì quelli marini, per tutta la metti quello civile, ci metti i quattro marini, al limite qualcuno se c'è la barca se lo mette in barca, intanto adesso c'è l'abitudine di rubare anche un HF dalla barca, un po' di gente. E già c'è un paio di volte uno stato, si è messo il WHF e non ha ciappato di domani mattina, gli hanno aperto la barca per il WHF. Si attacca a Q, dice se funziona la scheda FUNEM in questo 440. 7 5 0 0. Ah, che voce da troia! C'è la scheda FUNEM in questo. Spero il mio, l'avevo messa io. Era completo questo. C'era di tutto di più. Tutti i filtri, MFM, SSB, tutto va. Roberto Quadrato poi l'ha lasciato fermo, si è rovinato, ma è un gioiellino adesso. Va bene. Genio, ci sei, Genio? Ah, così. Va bene. Ma è Natalino venuto e... Marco? No, a meno che non sia arrivato adesso. Io sto aspettando la telefonata. Ogni tanto mi affaccio... Anzi, adesso mi affaccio, dai, sento un rumore di motore su. Ma avete detto di telefonava quando era sotto? Ciuccia. Allora funziona la taggetta adesso, questo... Come vi detto, mi piace un giorno, cioè... Non avevo più di 20 anni, ma funziona molto bene, funziona molto bene. Ed è anche omologato l'altronde, perché c'è la targhetta di omologazione davanti e anche dietro, in casa. E la quella targhetta che ci dava Giorgio Grassi una volta. A me la regalava, poi a un certo punto gli è venuto in mente, dice, se vuoi dare cosa mi devi dare, quando me lo fa, 20 mila lire mi ha detto, cosa? E te ne dirà, vai. Lo tengo così come gli ho detto, se non me ne frega, io non vuole che la compro adesso. Ascolta, ma quel 14 c'è sempre in garage, ce l'hai? Quello, l'ho acceso e il display ha avuto dei problemi e l'ho portato a riparare. Sono quasi pendi perché me l'ha chiamato uno, se lo stava comprando. Sono di quello che c'è di fronte a Mario Manse. Capito? Ho acceso e buttato proprio di scribù, ha aiutato a fottere il busocco. Quello perché l'ho lasciato in garage. Se l'avessi lasciato qui, forse non sarebbe successo niente. C'è anche il lineare, non so, il coso lineare, quello, lo speedy. Allora vediamo se accende, già sono stato sfruttato con la macchina. L'ho trovato al garage, messa fuori. Lì dopo due giorni ho trovato il vetro scheggiato all'interno, cioè non scheggiato dall'esterno, filato dall'interno, a partire da dove c'è lo specchietto. Infatti la macchina stavamo a 1500 euro e poi invece mi sono messo d'accordo con mia sorella, detto mio mamma, detto te la prendi tu, detto ti fai il passaggio e fanculo. Yeah, la parte mia è rimane qui. Poi il vetro gli ha fatto a sistemare, gli ho detto lì, se lo sistemi piano piano. È tuttore che abita vicino a Mario Massimo. Mattore cosa? Come si chiama? Lo Sagittario? No, abita proprio di fronte dove c'è la bettellina, c'è la mamma ma piazzata. Non mi ricordo di un attimo adesso. Infatti quando l'ho visto ho detto cazzo, gli lasciamo un giorno non ci vediamo. Dove squalo? Mi sembra squalo, sì. Infatti doveva procurargli un apparecchio 140 coso, Luca, flipper. O se pigliava un liquido unico, mi ha letto. Come apparecchio, però per 300 euro ti va anche bene, però ho detto lì come ho detto, non mi è piaciuta a me, per la M è meglio un 140 di avere. Se c'è un vallo ho detto molto meglio, o un 80. Io ce l'ho ma non ero. Ce l'ho, non ho per vendere ma non ero. Rimane qua. Poi devo ritirare anche l'altro Giuseppe. Però gli do chi dico io. Non ho capito chi è, dove parla nell'FD. Non so chi è, non lo conosco. Non mi interessa, non ci ho capito chi è. Va bene, e il tuo Sagittario più visto la ricca, perché di hanno emologico la fase, ma sempre ce l'ha il cinema. Sì che ce l'ha sempre, è già stato un po' di tempo fa, ieri l'altro giorno l'ho visto un pochettino più male, e io sono andato facendo la tua dieta, e mi ha detto sì un po', dice, sto dimagrendo, mi ha detto, meglio per te perché prima sembra aver dato un barello, io ho detto, evidentemente avevo avuto qualche problema, non lo so, comunque ci croccia sempre, però io la settimana scorsa sto vanno la vista, sono sceso a farmi un giro per togli meno stress da un coso all'altro, come ho fatto anche ieri, mi sono fatto un giro, sono andato lì da Talino, poi da lì sono andato a trovare Romano e sono bevuto una birra alla lucciola e poi sono andato a casa. Che ho pagato, adesso un giorno senza vedere. No, ci eravamo andati assieme, ti ricordi che avevi preso quel lineare? Cos'era? Non so chi lo voleva dare, eravamo andati assieme. Era una lire, dice. Un gasino pazzia, un motore. Mamma mia, come sto? E vabbè. Genio! Io sto ascoltando, sì. Ah, ci sì? Sì. Certo che tu una vacca, stavo ascoltando, dai. Ehi, ehi, che ti dico che sbatte? Antonio, ma tu non li sentivi? Avevo un camionista nel canale Nofaga, passando qua le vesce. Ho sentito, no. Ho sentito questa vesce, gli tu, e il cavolo è questo. Sentivo lo sbatte anch'io su Nofe. Sì, vesce, sono qua sotto, nella 131. Stanno scendendo la Saccargia, qua arrivano forti a me a te. Va bene, va bene. 7:20. Anche oggi siamo arrivati, dai. Domani non mi richiedi. Domani a quest'ora siamo già preparativi. C'è Juventus Porto, Champion. Domani pizza, ceadas, panadas. Poi cosa c'è? Kebab. Torta, gelato, di tutto c'è. Domani matta la guarda a mille. Sono la passata dei picchieri alla grossa. Domani vuota a poco. E ci metto un po' gli occhiali. Rottura di palle, usare gli occhiali anche per vedere lo Smith, la Cicchetti. Sì, adesso mi ha la mia moglie a fare la visita agli occhi. Anche io per cambiare gli occhiali. Adesso ci vengo a Rio, il prossimo mese, se mi tocca cosa, anche 400 euro di occhiali, poi c'è la terza volta che diciamo. Io li uso qui per leggere, ho due di grazia, infatti li uso per poter fare questi lavori qua, se no ci vedo un accidente, anche per leggere il telefonino addirittura. Ormai ho perso la vita, sono rovinata io più che altro, come sono rovinata anche un sacco di gente, tutti i tecnici sono tutti pochi male di cosa, a posto di avere la lampada con lo stampato che ti fa la cosa, come in pratica come saltare nella neve, sale uguale, c'era avuto tutti gli occhiali da sole per fare questo mestiere, invece purtroppo io ci facevo anche al buio quando ero gattando la riparazione, e quindi con la voce di quelle soffuse che c'era, mi sono dato la vista, poi il colpo in testa, ho messo il vago secco, ma ho visto bianco per circa 2-3 secondi, dopo di che meno male mi sono ripreso subito, cioè non c'avevo niente nella retina quando sono stato pronto soccorso, e mi hanno cucito dopo 3 ore, cazzo. Dicevo, lasciamo così, già sei cicatrizzata, non mi cucisce, ho detto, se sto filmando me ne sto andando, sono a fare i posti. No, vabbè, io ho avuto un problema, un'emorragia oculare, mi hanno operato all'occhio sinistro, ma... Quindi adesso devo mettere un occhiale correttivo che mi dia un po' più di sostegno all'occhio sinistro, perché è quello che mi dà più fastidio, capito? Non tanto il destro ma quanto il sinistro, quindi devo adesso usare degli occhiali che danno un po' di correzione. E vabbè, fermo pulisce intanto. Oh, manca la dritta. Sì, perché hai potuto scusare anche mio fratello la stessa cosa, no? Ho cominciato a avere cilindro anche lui, figura, lui è più grande di me di 2 anni. Lui, con un telefonino usava, magari si comprava con gli occhiali con la lente, qualcosa, la lampadina a LED. No, io ho avuto un problema anche lui. Scrivere, a fare, scrivere contattori anni, poi anche il lavoro stesso, magari, capito, qualche colpo d'aria, qualcosa, tutto riscatto, però già ci sono gli occhiali, non c'è problema, avanti già, che si fa attendere? Ma è una foto su Facebook? Facebook, no, io ce l'ho, ma mi sono entrato l'altro giorno a vedere messaggi di Gosi, ancora gli auguri di novembre, figurati, del compleanno, e poi messaggi, richieste di amicizia, no? cancella tutto. Genio! C'è Gianni Bravo 2 su Facebook anche. Tanto c'è una sorta di cosa, cioè metto le foto di quando ero piccoli. Hai capito? Hai a che fare, stava facendo la gara, una specie di scommessa. Va bene, dai, intanto Gianni, intanto Marco arriva subito, c'è anche Eugenio, dai, io vado a portare il cane che sono 7.25, se mi aspettate, quarto d'ora e sto rientrando, a dopo. E sì, ciao, a dopo, buona passeggiata con cane. Lì. Capito, quello che lì. Con tu dici, no? E poi mi sono picchiata con loro, sai? Picchiata come l'Italia, Luca Pezze. In ospedale è andato. Non è così, vabbè. Dai, vado, ci sentiamo dopo, ciao. Rimanete qua, io già torno subito. Sì, d'accordo. Scusi, ti piglia Antonio. Ma cosa è successo con tuo fratello là? Ma che cosa hai messo? La foto non lo riconosce, vecchio. Tu sei allucinante. Sembra con l'incettura di un coso. Poi messo in quel legno. Sembra che ce l'hai messo dopo la cazzo della morte. No, è messo sotto la raccomincia in un quadro, la staccata. L'ho messo in angolo. E vabbè, cosa c'è? È la pellicola che c'è, non c'è per quello che sento. Non la buona, non potete togliere la cornice lì e mettere la foto che avete magari sopra un tavolo, non so. Però è una cosa, attirgi adesso. Ti ho fatto una foto ieri, visto la e di Madrizzo. Però sta bene, ma sta mangiando come un porco, grazie a Dio, meno male. Oh, ma tranquillo adesso, va bene? No, io non può bere niente, devo essere in ospedale, non può bere nulla. Sarà bello solamente la famiglia e basta. Si fa perché sono era ricoverato prima in quella struttura, ho pagato 700 euro per il lavoro da niente, io ho capito. E quindi c'è una causa in corso adesso. Tra me e il CAF, c'è pratica il CAF con il coso. Con l'Inps per fargli avere un buon accompagnamento, dopodiché abbiamo denunciato anche la struttura che lui non si stava ricoverato, hai capito? Quindi aveva percepito soldi senza fare un cazzo, in pratica, come se lui non risultasse tutto lì. Quando ho fatto la visita mio fratello lì all'Inps, allora, da medico legale, sono accorti che era dentro la struttura e quindi hanno restituito tutti i soldi indietro, da gennaio del 2015 fino ad adesso. Ci sono 515 euro ogni mese. La pensata 50 euro al mese dalla pensione sua. Gli hanno proprio in pratica l'accompagnamento e mi hanno bloccato e quindi adesso ho visto tutto l'accompagnamento indietro. Insomma, adesso vado durante a casa così. Eh sì, faccio prima. Me lo porto a casa, sono più tranquillo, non deve stare così. Arreccato come fanno in ospedale. Hai capito, se c'hai un congiunto, o lo metti in struttura, se lo portano a destra, a sinistra, a sinistra, a destra, poi più intanto non te lo tengono più di 3-4 giorni. Il discorso è quello. E quindi una persona è costretta a mettere una struttura, hai capito? Il ricatto è quello della convenzione circa c'è la SL e con queste strutture qua. Tutto magna magna e magna magna, compreso anche il comune. C'era anche mia sorella lì, stanno in corno. E anche se poi la matta niente, la gamba niente, perché mia sorella era circa le mezze di coma. È andato mio nipote a trovare la sera, ci ha preparato da quel colpo. Allora dice c'è un po' di tocco, se ma niente. Era tranquillo. Sono tutti sedati quelli che sono lì, tutti quanti io che ci sedati io. Non c'è uno che non si è sedato. Poi io un giorno per sbaglio sono andato di domenica sera, alle 6, tutto buio. Di solito quando vai in ospedale, cioè nelle camere dove si aveva la luce, invece era tutto buio, cioè, non c'era manco un infermiere né un medico. C'era solo dell'inserviente e basta, non c'era altro. Capito? La mattina lavoravano tutti, di sera non c'è nessuno, per il turno di notte in pratica. Dove era? Primo piano? Al secondo, primo piano c'è hanno fatto, come si dice, l'istituto per anziani, invece al secondo era riabilitazione, come la vuoi chiamare. Sono quelli più bravi, mia sorella. Mia sorella non c'era manco 60 anni, non è morta. Non era anziana, era lì a primo piano. E ci sono quelle più, diciamo, più bravi, dai. Devono fare riabilitazione, aspettano un po'. E infatti, era così. Solo una volta mio fratello era sempre nervoso quando andavamo lì. Non si poteva sopportare. Invece quando l'hanno trasferito lì all'ospedale in medicina, ho dormito vicino a lui la notte. era tranquillo, non c'aveva niente, capito? Intanto che ha buttato fuori, hanno iniziato che stava suicidando, tutto lì, hanno tirato con la buccola su, ci hanno buttato fuori la saggetta, intanto che ha finito i soldi, hai capito? Ha fatto ora, uno di per fare la saggetta deve avere un minimo di 1200 euro di pensione, se no non te lo ottengono. Lo so che pagavamo anche la donna per la donna della roba, tutto qua. C'è un'infermiera che poi lavora la roba con me, che già il suo parco ci avevo in qua, lavorava per gli ammalati, per su. Che cazzo si diceva a me, se non mi ricordo male. È tutta una mamma, tutta una mamma. Esatto, sì. Adesso invece di al tempo, la cosa che hai visto che sta mangiando tranquillo. Ma con il gatto, invece quando era lì a saggio stavo il gatto la mattina e sera, addirittura anche andate a hotel, figurati tu. Infatti se ti faccio vedere, se ti mando le fotografie è tutto pieno di lividi neri in pancia. Che non le gamba con lì. Ma siete lontano, come fa? Un giorno sono andato ieri mattina. Gli ho fatto la spesa, alle cancelle ho comprato un po' di roba e l'acqua specialmente. Quindi in benzina ci ho messo, andato e ritorno. Ma c'è una compagna? Sì, sono insieme a Giovanna, mi accompagnavo loro, capito? In Puma non faccio il confronto andarci, non so neanche gli orari, non so niente di lì a chiesa, non so manco dove si ferma. Per arrivare all'ospedale devi fare un giro, cazzo strano, dentro al paese. No, perché abbiamo un negozio noi a Tizio, non è che c'è da fare tutto, rimane con lo spiaggio a decidere di fare, qui vicino a una terra. Non ci ha fatto caso la verità, non ci ha fatto veramente caso, è lontano comunque come paese quello, non è vicino, sono 45 km più aggiungi il cervello per arrivarci, mi sa più o meno 50 km andata e 50 ritorno. E dove lo mettete a casa tua? Io a casa di mamma, in pratica, dove abita Giovanna. Lo mettiamo lì, stiamo sistemando la camera, gli mettiamo il letto, quello che si solleva, gli mettiamo il materasso, quello per le piaghe, eccetera, eccetera. Poi la specie di duretta per poterlo sollevare, in modo da poterlo mettere nella carrozzina, così pesa meno, per dire, ci viene anche meglio. Noi siamo tranquilli, poi verrà delle cooperative per cambiare il panno la mattina, eccetera, eccetera, capito? Allora, quel letto, quel materasso che ho dato io, te lo danno a San Camillo gratis, quindi che mi chiedi, non è che te lo danno, non so se lo sapete. Non so perché quando c'era mio padre l'avevamo chiesto, poi avevano ricoverato, eravamo all'ospedale, quindi l'hanno già fatto tutto. Però poi l'ho dovuto riportare, mi l'abbiamo fatto che c'era Natalino, siamo andati e l'abbiamo riportato. Sì, ho fatto la domanda per il coso, per il materasso, per tutto. Quindi già non c'è problema. Adesso ormai la tira consegniamo con Giovanna. Non mi vogliono dare i referti di quando dice che ci vuole non so che cosa, adesso voglio andare, ci vado, me ne lascio, chiamo i carabinieri e faccio passare un po' di casino, quindi della segreteria dell'ospedale civile nuovo, capito? Volevano la delega, volevano, capito? E tu se sono detto amministratore di sostegno, che cazzo di delega voglio, ho detto. No, ci siamo la delega, se non possiamo fare di niente. Sono andato all'avvocato e gli ho detto così, e l'avvocato passa. No, trovano le rame, mi ha detto, siamo trovati, ci chiamo i carabinieri, già tra l'altro, non ti preoccupare, ma zitto. Sì, perché è la delega che te la fa, così non te la può fare. Chi te la fa? Giampiero non può farla, non può firmare Giampiero, come capito. Quindi, può qua fare la delega, cioè, sono io amministratore di sostegno, gli presento la documentazione a te, arrangiati. Non camminano perché è più di 2 mesi che era a letto, capito? Quindi quando una persona è nel letto non scende in terra, se no quando mettevano in hotel con le gambe si muoveva, per dire, capito? Faceva muovere la sedia all'hotel e andava dove voleva, lì al saggetto. Adesso bisogna che faccio, quando sta al momento lo mettiamo in sedia all'hotel, facciamo fare nuovo fisioterapia in casa, solo lo porto qui miei, in carrozzina stesso, lo porto a Conti che sono vicino e così faccio fare fisioterapia tutti i giorni, come faceva mia madre una volta, che quando avevo avuto l'incidente che è accaduto. Ci facciamo fisioterapia ogni due giorni, la portavo lì, accompagnavo io e facciamo fisioterapia al braccio, alla mano. Dovrebbero venire a casa a fare la fisioterapia, dovrebbero venire loro. Non ho capito se i nostri poveri, come c'è che hanno durato, per portarlo dalla parte all'altra. Sì, meno male, c'ho compito vicino, non costa niente a me, via la carrozzina, portarci in carrozzina, fare fisioterapia alle gambe. Una volta finita la fisioterapia, poi lo riportano a casa, già viene bene. Intanto c'è l'ascensore, salgo, scendo, lo riporto a casa, poi almeno sta meglio. Capito? Sì, vabbè, ma sarebbe stato molto più comodo, serve che si metta la pista a casa. Lo domanda, se me lo mandano, so, vediamo. Se la domanda è bene, solo ce lo porto io. Almeno esce, intanto fra poco siamo qui. Le temperature sono mite, almeno sveglia un pochettino. Almeno esce più tranquillo. L'importante è che non ce lo porto davanti a qualche bar, non sai che magari mi chieda, portami dentro a mangiare tra mesi, la tua risposta la mangia tu sette. Ok, allora la devo lasciare perché devo andare, che c'è, non me ne accorgo da così, c'è la stava salendo Claudio intanto, là. Da qua sono io, mi avrete già. Ti vedo, io ho sentito che c'era un vento. Ma perfetto, c'è, non c'è più molto leggero, mi giuro, anche rado. Che fatto c'è? Io stamattina vado a andare Claudio, figurati tu a fare un sistemare intanto l'antenna lì alla, come si dice? Ah, cementeria, ancora le palazzine vanno. Aiuto Giuseppe, io andiamo, mi ha detto che c'è un po' di vento, ho detto non mi fido di questo vento. Aiuta, andiamo, facciamo un pezzo, no? Ho detto aspetta, rimani qua, gli ho detto. Un po'. Arrivata 9:30, allora sta passata di vento forte, gli ho detto, tu devi andare di là, gli ho detto. Guarda che ti ho detto, se no saremmo caduti dietro, ho detto tutti e due come due imbecilli, gli ho detto. C'era tu mi passate un'irafica che c'era. Perché lì si incalava, capito? Lì alla cementeria. E quindi sono le quali un paio di strumenti togliono dal coso, un casino. Se per il equilibrio ci scendi giù, ci scendi, e che ti recupera? Fai sono quattro piani, fosse stato magari un piano, a me ti salvi, invece quattro piani mi dà con un cucchiaino. No, e lì è riparato, guarda, noi già lo sai come. Ciao già, sentiamo dopo, dai. Il Marco non è entrato più. No, è entrato, ma stavano parlando con la Salina, intervista. Io. Va bene, c'è anche Massimiliano, c'è tanto. Che rottura di scatole. Ma un attimo, devo andare. Ma ormai mezzo dal medico. Ho una visita. E poi, finalmente, sicuramente a metà settimana mi rientro al lavoro. Chi c'hai da dove c'hai? No, io ho già quasi giù via Pasqua. Ho attaccato dove abitavo prima. Ah, stavo c'avevi da dove? Capito? Di Pordenone, cazzo. Poi intanto nel me, alle 7:30 se l'ha tutto, dove comincia a fare ciucucciù. Lo sapevo che avrei fatto i soldi. I soldi hai fatto? Così che ti compri una cosa nuova. Sì, con i soldi natalino, ma altri soldi per l'accordatore e un commutatore d'antenna. Adesso me li spendo tutti. Sì, già va bene. Avessi trovato un po' di gente che si aveva baracchini da te, che avessi almeno te avessi tenuto almeno 3 o 4, non di più. Ne hai una ventina di quegli apparecchi, non devi stare accanto ogni giorno a fargli fare il giro, prima un giorno uno, un giorno l'altro, così diventi scemo da poi. Tu magari vai a mettere in una parte un telecomando dove non vai a messi più. Quindi, non si compri la nuova. Mi non comprerei come tempo l'antenna della Zeta Jimmy. No, me l'ha detto anche lui. Per carità, ZG. Per carità, solo che se vuoi roba buona devi andare su Taifa, minimo. E lui si accontenta di un Oxin che è uguale al Taifa, sperando che vada bene. Però spero di aver capito bene, lui lo voleva usare per attaccare due baracchini sull'antenna. Il problema è che poi se vai a selezionare il baracchino, bruci l'altro. Spero di aver capito bene io. così non va bene, non va bene, anche se spento lo bruci. Cosa ci dice? Ma cosa dice? Se ce l'ho io, ho due HF, io così. Cosa dice? Va bene, va bene. Ingresso dove c'è l'antenna, metti, e poi le due uscite, una a un baracchino e una all'altro baracchino. Se il commutatore è buono, già chiude, non ti preoccupare che non succede niente. Io ho quello della cosa, della Daiwa, sì, va bene. Chiude benissimo, non succede assolutamente niente. C'avevo quello della Oxin, un po' oscillava lo smitter, però no. Radio accese, tutte e due accese, radio spenta, non succede niente. Oh, infatti tu hai quello professionale, questo Oxin CO201, no? Sembra il Daiwa, ma non lo è. Io spero appunto che abbia una netta separazione delle due vie, capito? Così alterna i baracchini, ma io non l'avrei fatto francamente, io preferisco staccare l'antenna e metterla diretta, per sicurezza, dai, va bene. Adesso il rosometro è disponibile, cioè la colatore è disponibile, il commutatore è disponibile dallo stesso negozio, facciamo tutto un pacco, capito? E ordiniamo, domani stesso vado in banca, carico la scheda e gli ordino all'istante tutta la roba. Così forse in settimana, forse arriva in settimana, dai riprendete. No, perché forse arriva in settimana? Se tu ordini domani è martedì, ed è martedì lavorativo, mercoledì, giovedì, massimo venerdì mattina è tutto qua. Beh, se loro spediscono domani con SDA arriva venerdì, se spediscono domani, se spediscono dopodomani con SDA non arriva, arriva lunedì. Se invece spediscono col corriere, tipo Bartolini, DHL, anche se spediscono dopodomani, venerdì è a casa, perché il CDA ci mette 3 giorni, escluso sabato e domenica, 3 giorni, invece i corrieri Bartolini e compagni ci mettono 2 giorni. GLS numero 1, GLS, io sempre con GLS, sempre. Sempre con GLS, 2 giorni e c'ho sempre tutto a casa, capito? 2 giorni tutto a casa. Ehi, ahi, lo prende uguale al mio, e così. Io gli ho detto, ma io te lo posso anche prestare nel frattempo, ho detto te lo presto finché non arriva il tuo, metti che ci metta, che arrivi lunedì. No, non ne voglio, non c'è bisogno. Ha detto, io te lo scendo, non ne voglio. Se mi hai detto tu che stazionari alte, no, ho già messo metto tutto a minimo, insomma glielo volevo prestare, non l'ho voluto, vabbè. Era qui, to, inutilizzato, perché io preferisco avere l'antenna diretta al baracchino, capito? Perché tra adattatori e balle gli mangia qualche dB, 0,2 dB, quant'è? Che poi sono di più. Sì, ma a cosa serve usare 2 baracchini? A cosa serve? Avere dispersione e basta. Capito? Quindi, no, già chiude quello della Oxygen, non ti preoccupare, già va bene. Bastano comprare ZG, se no ci rimette il baracchino, già chiude quello da voce. Vanno bene. Però ti ripeto, io perché ho 2 HF, quindi li alterno per non stare a cambiare l'antenna. Ho fatto così. Però è meglio lui che usi l'antenna diretta, meno dispersione, capito? Poi magari quando mette l'antenna a posto, allora può mettere il commutatore dell'antenna. Eia. Era in gana di spesermi, un bel soldi aveva. A parte quelli che ha dato a me, che sono circa 200, c'erano un bel soldi. Potevo dargli un cazzotto, pigliarmi tutto. Il primo conserva, è stato sempre così lui. Sempre conservato, quando deve comprare, tac, va e compra. Così si fa allora. Non come te, non spendaccione, cazzo. Per esempio, con parenti, o tenenti, gli occhiali da guardone, quell'altro, ma no, tenanti. Gli occhiali da guardone. Ui. Vabbè. E beh, questo sabato Gianni niente ha detto, è disponibile, non è disponibile, o venerdì. Non lo so, non lo so, non lo so, ma ci volete andare anche in settimana, io non ho problemi, non dobbiamo fare mezzo. Non dobbiamo fare l'una di notte. Non andiamo alle 8. Alle 11 siamo a casa. 10:30, 11 siamo a casa. Cosa? Non ce n'è problema, ci bisogna aspettare a sabato. Se lo volete uscire, me lo dite. E si esce, no? Non problemi. E infatti io tutti questi impedimenti non ce li vedo proprio. No, io non li ho impedimenti. Io preferisco più settimana che sabato e domenica, capito? Non c'è problema. Tanto io dopo le 7 posso uscire, quindi. Non è grande adesia, ma ne abita. Andiamo verso le 8. Alle 8 andiamo dove volete, possiamo andare anche a tie break, non c'è problema. Il mercoledì e il giovedì mi pare, o il martedì e il giovedì, o il martedì e il mercoledì dopo quando viene mia figlia, glielo chiedo così, te lo dico con certezza, c'è il Thai Pizza se vogliamo andare, una settimana ci bisogna aspettare a sabato, intanto Eugenio sabato non ci può venire, Gianni sabato lavora, quindi venerdì ha detto che le viene male, perché si cura il capretto, capito, eccetera, quindi vediamo là. Lui. Per andare al tie break bisogna andare 3 settimane, perché sabato e domenica non c'è niente, è tutto per bambini. Se no, sabato e domenica dobbiamo andare da qualche altra parte, capito? Di sabato e non a domenica. Poi a qualcuno piace Porto Torres, lì dietro, chi è dietro San Gavino. Vabbè, gusti sono gusti. San Gavino, che San Gavino vuole 30 euro a testa? Non so se te la senti. Oh Gianni mi aveva parlato bene, dice a lui gli piaceva lì dietro San Gavino. Non so che ci sia, pizzeria sarà, boh. Ha detto ti staccano la testa, come prezzi? San Gavino ci vogliono 30 euro a testa, non so se ti conviene. Ma no, infatti. Io mi accontento dove volete andare voi, non ne ho preferenze. Proviamo il tie break lì, proviamo là. Scommetti che mi perdo il giorno a andare a Monserrato. C'è le pizzerie, non ti preoccupare. Pomponi, non dici niente tu. C'è pizzicotto se vogliamo andare. Ma va, chi è già andato, non mi fa un pizzicotto, ma di un pizzico. Ma pizzicotto c'è qui in casa, già non si aggirava la Giovanna. E dov'è? Lascia la 31, c'è il pizzicotto proprio via dei punti, mi viene qui con 1000 lire, di fronte al centro casa. Ah, a pizzicotto. Lasciamo andare anche lì a tonno, che problema c'è? Decidete voi, a me non ne ho problemi. Ma io devo andare per forza da mia figlia. Non ci tengo io a queste cose. Sono 8 anni, di 9 anni non è che non mi so come è andato. Quindi che problema c'è? Decidete voi, vi ripeto, se volete andare entro settimana, basta, avete fatto un fischio. Non c'è bisogno di aspettare a sabato. Volete andare domani, volete andare dopodomani, giovedì, venerdì, no, non ne ho problemi. E il pizzicotto chi lo dà? Giovanna gli dà i pizzicotti. No, Giovanna ci lavora lì, grazie a Dio. Però era ancora. Anche se dice che deve chiudere, a voi. La chiudere invece è ancora aperto, figurati tu. Vabbè, a me piacerebbe vedere quello di Monserrato. Di Ilaria, perché non sono mai stato lì, sono andato all'inaugurazione solo di Monserrato. Mi ho detto, quanto spazio sprecato, per due negozietti di moda, mamma mia. E poi non ci sono più andato, lo sai, mai più andato. No, non è un invece a volte, vai alla Conad, dove Ilaria, no, andalo qui. Sempre loro spinando io, così alla Conad. Ok, no, infatti ve lo sto dicendo, non è un problema, anche perché lì è una cosa diversa, capito? Devi fare prima la caccia, ti danno il coso, poi vai al banco, ti danno lo spicchio d'acquisto, quello che è ordinato, allora tu vai fare come il McDonald's, non mi piace, ma non mi piace. ho problemi, non ho preferenze. Non ho preferenze. È Pomponio che preferenze ha, dove vuole andare? In qualche bordello brasiliano? Perché non ho più visto nessuno di quelli lì. Da quando sono questi migranti non ho più visto qualcuno in giro di quelli, la verità. Ma avrebbero sempre rispetto. Mi invitavano a casa loro a mangiare bistecche, a bere la birra. Sono un bel che non è vero, figurati tu. Quando sono arrivati questi migranti sono tutti fuggiti. Addirittura tu si vai in consumo di Vittorio Emanuele, sembra che ci sia il coprifuoco. Sì, tutto Meri è diventato una specie di ghetto di neri. Poi sul giornale La Nuova dicevano che siccome adesso è pieno di nigeriani, di romeni, nigeriani e romeni, dice che i senegalesi se ne stanno fuggendo, lo sai, perché i nigeriani e i romeni sono cattivi. I senegalesi se ne stanno fuggendo da Sassari. A Zuffavo ci sono 4.000 market, tutti di negri adesso. Figurati, dove siamo io pure che sono andato lì, c'era, come si chiama quello che vendeva bandiere. Adesso mi hanno fatto un mini market di cose, di, non è tunisini, non mi ricordo adesso cosa c'era scritto ieri. La cosa è che è tutto pieno di mini market, di cose, c'erano tutte le regole, tutte in fila dentro. Sembrava di essere, non, cioè di vedere un negozietto, come si dice, un sellere in barriera. Siamo a casa, ma che problema c'è? notizie, per ogni giorno, io mezzanotte e mezza, io non ho quelli fatti all'ora e mezza. Sì, infatti a me che sia sabato non mi interessa, io posso andare un giorno qualsiasi della settimana. Vabbè, sempre bisogna accontentare tutti. Bene. Sì, se andiamo questa settimana viene anche Eugenio, c'è Valerio, capito? Diciamo Elio se è disponibile, Stefano è fuori purtroppo, non può che a trabacco, però lo posso chiamare lo stesso per vedere, però Valerio viene Eugenio se andiamo questa settimana, quindi da lunedì a venerdì. Allora giù la ci fa vedere tu? No, sta qui, già ci sono. Quando volete voi, decidete voi, non c'è problema. Io sono libero questi giorni, mi sono domani mattina se trova bene. Se è calato il vento, vado una mezz'oretta, faccio questo lavoro, e così me lo spiego, poi devo andare all'ospedale a bisticciare con queste teste di cazzo di cose. E ci sono lì in segreteria, piano terra. Speriamo bene che non ci sia vento domani mattina, se no è un casino questa cosa. Ho bisogno di segreto, taglio il tubo e la giura in chibi. Vado a caricare in testa. Con chi devi batti beccare? Con quelli dell'ospedale? Non mi vogliono dare il foglio in pratica di degenza, sì, è quello di divisione. Hai capito? Perché volevano una delega da parte di mio fratello, non c'è poco da delegare, io ho detto, mio fratello ha detto non può firmare, quindi ho detto sono io, mi è stato sospeso per non mettere il foglio. Adesso domani ci vado con Giovanna e vediamo un po', già mi danno proprio un bel simpatici quelli dell'ospedale. Lo vuoi il pugno di ferro? No, è perché non vado a finire in galera per queste cose, non lo saranno, non c'è bisogno, sta tranquillo. Sono bravo così, li faccio fare dall'avvocato e sarà già loro, quella mi la fusi a me. Scatenagli Giovanna contro, vedrai che sai le femmine quando alzano le voci sono tremende. Vedrai che vi danno retta. Ci vorrebbe tira di uomini e donne, ci vorrebbe andare nei posti così, mi capisce a bozzi. Ui, sempre a battagliare Pomponio, poveraccio. Battagliare a destra, battagliare a sinistra. Bene. Ti è rimasto qua, quasi quasi, ma è tardi per il telegiornale, ormai. Anche a te è già tardi, sto guardando io a volume basso. Ui, è tardi, sei tu, mi ha paranoia che... Vabbè Natalì, adesso mi spendo tutti questi soldi, mi... Oi, mamma mia, è troppo armato Natalino, meglio non sgarrare con lui. Ma tu stai a caricare la vettura, basta con un colpo di manico di bimbo. Ma il proiettile è più veloce però. Vabbè, allora abito manico la bala che è più lungo. Guarda che battaglia l'abbiamo 27 lemi. E te lo scupita, basta che si allunga da sola, mi. Come manganello si allunga da sola. A proposito del BA27, dov'è quella che ci avevi tu, Lupo? Facevo io la Mario su alla Alberghiero, che poi non ha lasciato sua parte sulla pata in chibi. Non parlare mai, tu. Mario, vabbè, cosa ce ne va di Mario, non ci compreso, quella ci serviva per Natalino a noi. L'avremmo messa, vedi, al posto di quella lì, il palo un po' più lungo e tirata su che non c'è radiale, che dice sciuga. Allora non possiamo andare a prenderla. Ci ho bisticciato più di un mese fa, capito, voleva riappare i PMR a grazie, si voleva utilizzare l'aiuto, la roba l'ho pagata io, ho detto se vuoi, chiedo te, mi hai detto che ce la vuol dire. Hai capito? Io ho detto vaffanculo, ho detto gli girare le palle. E non vedevo più andato. Ho lasciato anche la linea di travaglia, se mi è sbattuto un cazzo nella penna, almeno questo che avevo speso non mi chiedono niente. pensano. Però saltavi, vacci al limite tu. E gli ho chiesto quella che fa palzetto, se te la lascia la prendi, vale proprio. Tanto sì, che avevamo risolto il problema Natalini. Porta quella della macchina, messa quella che è dritta, è uno stilo, senza radiali, senza niente. Abbiamo risolto un problema che... Chi ce l'ha la BA27? Non è che ce l'ha Antonello Barracuda, no? L'aveva tolta anche lui. Allora non ce l'ha, l'aveva tolta, mi sembra, non so se ce l'ha buttata però. Come antenna. Ma sono la tiria, chi cavolo diceva, Giuseppe Leoncino ce l'ha. Quell'antenna lì. Era sistemare. Ha detto che deve staccarla, ha detto che non si mette una canola fresca adesso. Tutti vi siete mica canale a pesca, io no, a pesca bisogna da piccare, non per parlare di antenna. Boh, che coglionate, per carità. Vabbè, so che non te lo baracuda, ma se c'era questa via 27, che quella c'è terra di aria, Antone, no? Sì, la metto qui in pratica, mezz'onda, ma è 50 anni però la metto qui, ormai, ma non mi fa niente, ma è vero, c'è la questione che il centro di aria va benissimo, la vede, abbassa il palo, ci mette quella lì, il centro di aria funziona bene, non è che non funzioni, ma anche la metto qui, tanto la massa fa il palo, non c'è nessun problema. La mezz'onda è in pratica, c'è tutti i tipi di medico, c'è la 50 anni la mezz'onda, sono precise, solo che una è leggermente più corta. La BA27L ce li ha i radiali e siccome il 50 V deve funzionare con i radiali, se glieli levi lavora male. Bastava una mezz'onda, la GBC 60 euro, la Midland a mezz'onda, uguale alla mia però mezz'onda, 5 litri e mezzo, nuova, soprattutto non roba raccattata da ricostruire. Senza radiali però, Natalino, senza radiali. Per quello per quello ci metti una vingo, scusa, costa 45 euro mi pare, 40 euro la fusata, si mette la vingo fa prima. No, no, no, niente Ringo, è una merda la Ringo, non la comprare mai Natalie, per carità l'ho avuta io, un incubo era. È quella che c'ha il filo, no, che devi fare la correttura, quella lì è Marco. Sì, per carità di Dio, che razza, non è un'antenna, fa meglio la quella di macchina mi. Io appena ho potuto l'ho cambiata subito. La Ringo vale 39 euro, costa 39 euro ma li vale... È una cagata, dai, una cagata. Non la... è uno schifo eppure l'hanno avuta tutti, lo sai, l'hanno avuta tutti. Io direi una mezz'onda della Midland. Come la mia ma mezz'onda, però deve essere isolata bene, isolati i giunti di ogni di tutti dello stilo, isolata bene la bobina che è dentro un tubicino trasparente, bisogna tra l'alluminio e il tubicino isolare bene, non sia che entri acqua. Insomma. Aspetta un attimo, io sono al telefono con un collega. Eia, eia. Ma andrebbe anche bene una cosa, una Grand Prix, uno stile, un radiale di Grand Prix, e va anche bene per lui. E poi lui c'aveva la boomerang, quanto mi ricordo io, quindi Natalino, deve solo cercarla, una boomerang che c'aveva prima. C'aveva lo stile del radiale, basta fargli la taratura laggiù, e poi via c'è la piazza sopra. Comunque Antonello Di Ossi, lui ha avuto, che io sappia, la Ringo non lo so se l'abbia avuta, lui ha avuto la mezz'onda della Midland, però a lui ha dato problemi. Ha dato problemi, non so cosa si era interrotto il filo interno, una cosa del genere. Dopodiché la cantonata ha messo un'antenna Sirio bella teccia, un'antenna Sirio pari alla Mantova con le palle. E vabbè, ce ne sono in giro, ma che solo con quel palo che c'è Natalino, cioè metterci un'antenna pesante, non va bene, perché è un casino. Io ho messo la Mantova col palo telescopico, però la stazione è un X5, quella va bene. Dentro la via, figurati tu, l'antenna l'ha spostata dal muro quasi 80 centimetri. E uscivo lo stesso, la testa all'altro, se ti ricordi. Con 4-5 radiali mi sembrava come sono di più, l'hanno trovato turbo, poi lavorato a Stefano quella lì e poi dopodiché in pratica lavoro fui venduta a coso a Fulito Montroves, lavando, siamo stati in campo. Guardando con la mano lì era il modello vecchio, invece io poi ho preso il modello nuovo, per cui stanno bene ancora. Sì, ho trovato la vecchia foto della Mercury della 27, ed era mezz'onda come quella della Midland, però anziché avere il tubicino trasparente, no? Dove vedi la bobina, era coperta, capito? Era tutto alluminio, era Mercury. Caspita, un po' di anni fa era mi, 20 anni fa, quant'era? 30 anni fa c'era quell'antenna. Ho trovato la pubblicità su internet. Figurati, ce ne sono tenuti a guardare, sono senza usare, ce n'è una anche a Monte Grappa, c'è una Firenze 2 Explorer addirittura. E gli studi ce ne sono tutti e tanti dentro, perché siccome la possibilità di essere con la vita, c'erano il dado filettato, capito? E stringevi così, questa oscillazione del colore, infatti i dadi si sono allentati e ci si sono stilo quasi tutto giù. Solo che per salire stata a 4 ci vuole una scala lunga, ci vuole. Poi già ci vuole poco staccarla. E di cose Roberto Pinna, quell'antennaia. La moglie non se ne fa un cazzo, cioè di una cosa che dell'altra, del cavo e dell'antenna. Tutto lì. Ho detto un mese fa, ci stavi solamente tipo di piatti con l'antenna, ho detto guarda, se stavi soprattutto il nuovo, ho detto io non ci stavo più di retta, già stavi morto, ho la pancia adesso, prima era più male, adesso mi viene male, devo salire, è più agile. Comunque da Natalino sul palo, un'antenna leggera, la mezz'onda pesa 2 kg, 2,5 kg nemmeno. Ti ricordi quando abbiamo piazzato questa? Come abbiamo isolato perfettamente con l'autoagglomerante tutti i giunti dell'antenna? Abbiamo fatto un bel lavoro, infatti come vedi tuttora funziona bene, tocchiamo ferro, adesso tocco ferro, anche le palle mi tocco, scusando il tempo. Che funziona bene a Puglia. Io è stato che lei che non ce l'ho. Se avrei avuto la Gran Prix, avrei messo la Gran Prix, sono delle Gran Prix che stanno prendendo adesso, per dire, sono di quelle che si piegano come un vento, capito? E fanno schifo, fanno lo stilo, non ci sono quelli di una volta che sono alluminio pieno, metà alluminio, metà vetrovecina. Quello è un tubo che piegava lo stile. O si spaccava del tutto, però se la piegasse non si piegava. Sì, aia. Pochi anni fa vendevano, fino a pochi anni fa, la Sigma GPVR6 Gold, era una un quarto d'onda full size, diciamo, no? Stilo da 2,75 e 3 radiali, 3 o 4, e lo stilo era anodizzato color oro, molto bella era come Grand Plain. Poi è sparita anche quella, non la fanno più. Però Antonè, chissà perché io penso che piuttosto di una Grand Plain che ha metà stilo, metà radiale, allora meglio a parità di lunghezza avere tutto stilo e quindi brigliare una mezz'onda, o no? Dipende da come vuoi fare la Natalino, so che antenna vuole comprare. Magari si può comprare una alla GBC, se la ordina si mette quella, non è un problema per quello. Il problema è che dobbiamo abbassare il palo, che è un casino. Per abbassare il palo ci vuole una scala lunga. E non trovi così una scala lunga, no? Capito? Per poterci lavorare bene. Bisogna abbassare tutto il palo, poi agganciarci l'antenna sotto al palo e poi rimetterci al nuovo nella gamba più fetta, è un casino. Fate una finestra, rischi di caderci, capito? Da secondo piano. È un casino, sì, un casino. Avere gli attrezzi giusti, la scala. Beh, a quel punto anche una 5/8 si può mettere. a meno che i radiali non diano fastidio a qualcosa, a qualche antenna, allora mezz'onda è bella, non ha radiali, dritta e vai così, dai. Mi ricordo quando eri salito sul gabbiotto, scendi, scendi, che paura che cadi, avevo l'ansia per te, metti che ti prendi un capogiro, cazzo, ti vedo volare giù dal palazzo, te le immagini? No, già stavo lavorando tranquillo, non ti preoccupare, se so che sono in pericolo, se te quello non ci sta, non so più come era di una volta, non avevo 20 anni, che me ne andiamo a salire in qualsiasi tetto. Adesso le cose sono cambiate nel 50, se permetti, la stanza è diversa, sono stato magro per dire, allora avessi stato più agile, ma adesso viene male, tra dolori di ginocchia e cose del genere, è un casino, non è che mi possa, non c'ho più lo sbraccio di prima, capito, quando sei più leggero, invece hai, che pesi 40-50 kg, è un discorso, non comincia a pesare 80 e per qualcosa in più, viene male, anche perché c'è la pancia. Non con le palle, più che altro. Ehi, quanto pesi tu senza vestiti? Io pido 80 kg, 85 penso. Oh, una botticella. Pensa che io peso senza niente, con i mutande peso 68-69 o giù di lì. Peso poco io mi. Ehi, allora già va bene, potresti fare l'antennista allora. Sei leggero, può passare tranquillamente dei tetti, capito? Adesso invece viene un pochettino male, secondo me te lo vai, sei detto a tegole, in cannetto sotto, sta tranquillo che ti va, li pezzi direttamente nella mazzardina ci scendi. Eia, se non fosse un po' questa paura delle altezze. Non so vertigini, è proprio fifa delle altezze, capito? Invece c'era un periodo che avevo preso un farmaco particolare, banale anche, mi aveva fatto passare la paura delle altezze. Andavo con Pippo a piazzare antenne, mi mettevo sul bordo del palazzo, sul bordo del terrazzo e guardavo giù, senza paura. Lo sai, mi aveva fatto passare la paura, questa medicina, questa paura delle altezze. Incredibile, guarda. Ecco, fatti quel farmaco. Allora, così si apposo un po' di adrenalina ti metti. E vedrai che fai volo. Volo, mi butto giù e volo. E poi ti spiaci per terra. Oh, io, la testa. Claudio, ci sei ancora? Ci hai abbandonati? Natalino, ci sei ancora? Non hai voluto in prestito l'accordatore, bubu? Poi già lo sai, Antone, qual è l'accordatore, sì? No, c'ho il tema mille io, di qua. No, mi metto il cerici, stasera è perfetto, eh. È un po' che lo pulivo. Bene, domani vado in banca a versare e poi subito acquistare tutto. Speriamo che arrivi in settimana. E se no arrivo a lunedì, pazienza. Io volevo prestare l'accordatore a Natalino fino a lunedì, finché non arriva la roba non l'ho voluto. Non l'ho voluto. No, perché con l'accordatore poteva mettere anche a manetta tutto, capito? Uscire più forte, più alto il segnale. Sì, già lo so. Era meglio l'accordatore, lo smetto. Lui, aia. No, già, ci prende spesso così. Per come detto l'antenna, provvisoriamente va bene. Poi qualcosa inventeremo. Capito? Ti funziona WhatsApp? Sì che mi funziona. Mica che mi ha dato un culo se guardi bene. Ce l'ho visto il culo, infatti come ho visto il messaggio ho detto va, questo è Pomponio, sicuramente mi ha mandato zozzerie, infatti era un zozzerie. Me l'aveva mandato, ma lo so te. Adesso ti arriva. È arrivato già un messaggio vocale. Un attimo Natalizio. Eccomi Natalizio, credevo che fossi andato a mangiare. Eia, eia. Bene, stavo parlando con Pomponio, mi ha mandato un culo, tanto per cambiare mi manda sempre cose tozze con questo WhatsApp, mai che mandi qualcosa a apparati, che ne so, ehi, è un maniaco, è un pervertito, mai che mi mandi radio, apparati, sbaracchi, sempre culi, roba zozza. Ciao Paolo, ci avete portato di più quattro soli? A voglia. Lui che pasticcio questo apparecchietto qua. Ho aperto troppe pagine e adesso non sto capendo niente. C'ho pure mal di pancia, mi sa che devo andare in bagno a fare. Capito? Oh raga, devo scappare in bagno, dai. Ci sentiamo domani, ok? Non riprendo, dai. Ciao ciao a tutti. Chiuso Vette, dai, io vado a cenare, ci sentiamo ragazzi a domani, buonanotte a tutti. Ciao Fra. Ciao Antone, mi sembra che c'è Pinuccetto il Moro, Pinuccetto tu sì. Ehi, l'uomo gli ha cambiato lì. A vedere si è cambiato, lo senti a Pinuccetto Antone? Che voglia che lo sento. Ma l'intende se Antonello Pinuccetto? Ma se sono sul telefono, sì, già cambiato. A pulire, ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Io certo, io certo, io certo.